Iniziamo a registrare Zona Rossa del 29 aprile, ricordiamo che a noi fascisti piacciono appesi e morti, ma chi fosse in giro a voler festeggiare la morte di un fascista, e basta. Lorenzo, vuoi dire una frase di lancio? Enk, basta! Perfetto, mi sentite? Buona sigla, tra pochissimo. A tra pochissimo. Come va con le marchette, io c'ho una mia visione del mondo e sto oltre frontiera, e colano i colori del cielo sulla ringhiera, cobalte d'un coyote che aveva un occhio di cera, Carl Gustav Jung, lettere dalla riviera, cahier de doléances per tenere a mente i torti, quei grandi eroi francesi, tutti uomini morti, e sti cazzi non li aggiungi quando parli dei defunti, tu non cagarmi il cazzo se non comprendi i miei spunti, ci si imbarca sul pecude, affanculo questa giungla, cacciamo Moby Dick e la ricerca sarà lunga, prolunga la visione, porta tutto il giorno d'oggi, e la nonna di Roger, la mania delle patate dolci. Entro la birra, verso la birra, bibidi bobidi bu. Bevo la birra perché non c'è rum, bibidi bobidi bu. Entro la birra, verso la birra, bibidi bobidi bu. Bevo la birra perché non c'è rum, bibidi bobidi bu. Passo la sera nel cazzo. E meno male che ho fatto molti backup. Sì, meno male che ho fatto molti backup. Meno male, boy. Idi Amin. Isho boy, boy. Come un ritardo, sento il delay, delay. Organizzo tornei di Snake. Sì, parlo del Nokia. E vince il mio vicino del piano di sopra. Erma col campione, tarallato alla bisogna. E facciamo Rai Nettuno, cioè facciamo l'istoria. In Borgia ci pompano sulle orecchie bis. Degli specchi siamo la versione hip hop dei Jalisco. Apro la birra, verso la birra, bibidi bobidi bu. Bevo la birra perché non c'è rum, bibidi bobidi bu. Apro la birra, verso la birra, bibidi bobidi bu. Bevo la birra perché non c'è rum, bibidi bobidi bu. Questa è casa degli specchi assurdi. Voglio un tour con le sostanze. Jan Ulrich, ho sembianze di animale. Cazzo, auguri! Camerieri della scena, cambiamo le lenzuole, ti rubiamo la pecuglia sotto il materasso. Sai che noi facciamo pena, votiamo il candidato che ci dà il maggior guadagno nella testa bordelli, progressive, discutiamo sulla scienza, progressi, faccio colazione prima, alberghi, mangio questa fiorentina, Kanchelskis. Ho creato un nuovo cielo e non andava bene, cosa ho chiesto al signore all'apocalisse, mi ha detto è già venuta solo che non lo sapete, ora battimi il 5, battimi il 5. Primo tra sudori agri, culturismo, il mio sogno è aprire un agri, turismo, bevi birra e ti spacchi, burdisto, salvati da noi Cristo, e adesso datemi un martello. Ed eccoci tornati. Bravo Lorenzo, complimenti. Il calcio del cellulare è sempre stato il tuo sport preferito. Che è successo? Come mai c'è stato questa storpiatura della mia voce? Va bene, carissimo. Non ho capito perché sei andato in fissa per vedere quanti ci ascoltano. Milioni, miliardi. Qual è il problema? Di cosa ti angosci? Se sono un milione o un milione e mezzo? Era il massimo. Era quello il problema. Eri proprio a tappeto. Cioè, tipo 120. Che magari quando hai strattonato tutto il tavolo per scendere a prendere il telefono che avevi calciato si è scombinato qualche livello. E pensa che tu non avresti neanche guardato il mixer, ma saresti andato avanti così tutta la puntata. Può darsi, può darsi, perché sono un ragazzo che si sa adattare, al contrario tuo che invece no. Va bene, ma non pensi alla gente, i milioni che hai detto prima. Non penso a nulla. Vorranno sentire bene la tua voce. Io ho una mente vuota, sono veramente vago e divago come il dottor Zivago, diceva il poeta. Va bene, ma mentre io chiamo la prima persona, no, aspettiamo un secondo, regole puntata, regole di questa puntata. Punto primo. Vai. Dovevi fare pubblicità a qualcosa o a qualcuno o a qualcuna? Ah, ma assolutamente. La pubblicità, vai, quella lì la facciamo più tardi, perché tanto, okay, andiamo per le lunghe. Okay. Però c'è una gozzissima novità. Attenzione. Ma proprio gozzissima, ma super novità. Gozza. Ma proprio super gozza. Avete presente tutte le volte che volete insultarci, ma non avete modo di farlo? Ora vorreste farlo gratuitamente? Cioè, siete lì che dite, ma io li voglio proprio mandare a quel paese, quei due stronzi. Esatto, io ora potete farlo. Oh, sì! Abbiamo un canale Telegram gratuito, bellissimo, freschissimo, bellissimo, liberissimo, antirazzista, antisessista. Insomma, meraviglioso. È fatto apposta per voi. Quindi, munitevi del vostro bellissimo smartphone. Smartphones. Andate e cosa fate sul con lo vostro bellissimo Telegram, lo aprite, esatto. Skippate le 250 app inutili che avete scaricato sul telefono. Minimo, e digitate nel cerca di Telegram, chiocciola. Radio ZAM, tutto minuscolo, tutto attaccato. Tutto minuscolo, tutto attaccato. Come direbbe Riccardo, underscore. Underscore. E io invece dico, trattino basso, chat. Ora, avete provato, l'avete aspetta, aggiunto. Ripetila, perché facendo gli idioti siccome non si è capito. Chiocciola, Radio ZAM, tutto minuscolo, trattino basso, underscore, chat. Mi raccomando, voglio un test live. Chi lo mandateci fa? Mandateci un messaggio, esatto, immediatamente. Il primo che manda un messaggio avrà una foto del capezzolo di Lorenzo Picarazzi. Sì! Promettiamo cose che poi possiamo mantenere, perché siamo delle persone orrende. Ma abbiamo delle altre regole alla puntata di stasera. La puntata di stasera si compone di Zona Rossa attorno agli albori. Zona Rossa vuole delle chiamate, ha un tempo limite, 3 minuti a chiamata. Vi, esatto, faremo solo 2 domande. Esatto, non vi molleremo un secondo. Le due domande sono, la prima domanda, diciamolo, diciamolo subito, certo, così tutti i milioni di persone sono lì che fremono, ma si preparano. 3 minuti sono pochi. Cosa fa? Che finte, che non che me la ricordo. Madonna. Va bene, ma siamo. È bello, perché allora non sono solo io l'idiota. No, non sono solo vabbè, io l'idiota. Non te lo ricorderò anche. È arrivato un messaggio. Attenzione, Samuele! Oh mio Dio, Samuele! Leggiamo in diretta. Ah, attenzione. Non vogliamo far sì che questo sia un luogo intimo, un luogo di privacy, un luogo dove potete mantenere l'anonimato. Qui verrà spoilerato tutto. Grazie Samuele, non c'era bisogno che mi riconoscessi questo grande attestato di stima. Leggo testualmente: Guglielmo sei il miglior compagno che abbia mai conosciuto. Grazie Samuele. La foto... avevamo chiesto insulti, ma non ce li danno. Grazie mille. La foto del capezzolo di Picarazzi ti arriverà a casa previo pagamento di bonifico di 2000 euro. Grazie, ciao. Bene. Detto questo, le due domande. La regola è: cosa farai il 4 maggio? È vero. E tanto l'hai proposta tu stamattina. Ma io la mattina, tu non Guglielmo, viviamo insieme da un mese e mezzo. Madonna, devo confidarti questa cosa. Io prima delle 10 non esisto. Ma non è che sono vivo, dieci, sono sveglio. Penso solo al cane. Non è che dopo le 10 stai bene, invece. No, però pensa prima. Vabbè, e quindi niente, prima domanda che vi faremo stasera. Comunque, ma pensa. Ma chi l'avrebbe mai detto che sei cigo? Non so perché esca Samuele. Vabbè, forse. Chi lo sa. Questa tecnologia che si ribella. Oh, però non fare come con Maya, eh. Che poi no, come con Maya, no, è solo con Maya succede. Vabbè, come con Maya. Allora chiamiamo anche Maya. Dopo sì. Detto questo, prima domanda: cosa fai dopo il 4 maggio? Dato che Conte ci ha liberato quasi ufficialmente, ci ha permesso di andare a morire in fabbrica. Grazie papà. Grazie Conte. E la seconda domanda è: chi vuoi chiamare? E qui daremo la possibilità di chiamare 3 persone, cioè di fare 3 nominativi, perché tendenzialmente il rating delle persone che non ci risponde è sempre piuttosto alto. Per cui daremo queste due domande: cosa fai dopo il 4 maggio? Chi vuoi chiamare? Noi chiameremo a ruota queste 3 persone e 3 minuti a bomba proprio. Io lo sapevo, ma non potevo spiegarlo così bene, capisci? Quindi ho preferito lasciare l'ignoranza. È l'avvitatore tutto il giorno. In realtà mi ha reso così capace. Mi sembrava una settimana fa stamattina, però fa niente. Va benissimo, il tempo passa in maniera incredibile. Pensa quante emozioni vivo al giorno. Madonna, ma questo emozioni? È perché faccio parte del centralino delle brigate di solidarietà di Popolare Milano Sud. Io pensavo che per una volta potessi dire che fai parte del centro sociale di zona attorno a Milano. Ma io volevo fare un po' di pubblicità, un secondo. Che cosa? No, attenzione. L'ho messo giù. Ha messo giù lui? No, io ho messo giù. Io sono contentissimo di questa cosa. Zona Rossa può tutto, è incredibile. Qualsiasi. Mettiamo giù agli ospiti. Esatto. Quindi comunque l'attività di Centralino, almeno secondo me, è, da quello che mi è stato detto dalle persone intorno a me, emotivamente è molto provante. Nel senso che si ha a che fare proprio attraverso il telefono, ovviamente, ma tu per tu con le persone, con i bisogni delle persone. È vero che da quando è iniziata l'attività di Centralino, l'attività stessa sta cambiando, perché fondamentalmente i soldi stanno finendo e quindi sta diventando più una richiesta d'aiuto esplicita più che un semplice dare una mano. E vi consiglio di provare, vi consiglio di proporvi come volontari, perché c'è spazio per tutti e per tutte, e possiamo chiamare Cigo. Possiamo chiamare Cigo. Arriva subito. E vabbè, ma in realtà mi spiace che, cioè, tu abbia troncato così la tua parte emotiva. Ma torna. È brutto vizio di tornare a essere intelligente. Io invece più. Brutto vizio di essere borderline. Buonasera. Io ci sono. Buonasera, ma ci sono rimasto male di quella dell'attaccata in faccia. Scusa, Cigo, il fatto è che Lorenzo era in un momento molto importante e io non volevo. Cigo, la zona rossa è giustificato tutto, dai. Secondo noi. Cosa stai facendo? Cosa sono sti rumori, Cigo? Non sono io. Cioè, Cigo, praticamente stai finendo di squartare la tua vicina di casa, che evidentemente aveva messo, non so, l'inno d'Italia troppo alto, e adesso hai finito di squartarla. E no, perché lo sapete? Cosa? Come fate a saperlo? Conosciamo, ascolta. Cigo la carogna. Invece tu sai quali sono le due regole di questa puntata, Cigo? Vediamo se hai capito. Assolutamente, l'ho appena sentite. Oh mio Dio! Dire qual è la prima cosa che farò dopo il 4 maggio. Sì. E tre persone che voglio chiamare, che penso sia la cosa più difficile di questo mondo. Ma sei proprio una persona senza amici, è proprio vero, e nemmeno amiche, ma va bene così. Non so se lasciarti il lusso di rispondere a queste domande o metterti giù di nuovo brutalmente come facciamo tutte le puntate. Perché l'hai chiesto? Io ti ricordo che sono lì domani perché faccio parte delle brigate di solidarietà popolare di Milano Sud. Ho capito. Dobbiamo ricordare il grande lavoro che stiamo facendo. Madonna, ma tutti che ricordano le cose stasera? Sì. La memoria è un ingranaggio collettivo. Sì. Se non vuoi che non debba rispettare la distanza di sicurezza, per cui io ti dia uno schiaffetto dietro. Ah! Cioè, aveva il tono di una minaccia, non ho capito fino alla minaccia, ma l'ha presa larga, perché vedo che è un pusillante. Poi c'è stato l'esito. Vergognato. No, okay. A pica la do, ovviamente. Ascolta, hai 120 secondi per rispondere alle domande, anche meno. Vai velocissimo. Vedere mio padre, che non vedo da 2 mesi. Ah. In quanto la separazione dei genitori c'è, e quindi ho voglia di vedere il mio papà. Ok, sei un ragazzo molto tenero. Oltre che la mia ragazza, ovviamente, nel corso della stessa giornata probabilmente. Mi raccomando, non mischiare i sentimenti e le cose che faresti con uno con l'altro, se no più che altro è incesto. Non perché non ci sono, ovviamente noi siamo per l'amore omosessuale libero, ma col proprio padre è un problema a livello genetico, ecco. Ricordiamo che però bisogna sempre vedere le persone mantenendo la distanza di sicurezza anche in casa. Ascolta, che mantieni la distanza da Miriam non ci crede nessuno. Wow, nessuno. Cigo, ma poi l'Italia è un paese che si basa sulla famiglia tradizionale, quindi nessuno ti guarderà male se abbraccerai la tua fidanzata congiunta. Congiunti, capisci? Tanto vi state sposando, lo sappiamo tutti. Oh, mettere pressione adesso. Minchia, con calma, un attimo. Ah, Miriam, minchia, mi ha detto di non dirtelo. Ascolta, hai 20 secondi, dopo tronchiamo la telefonata. Chi chiamiamo? Norberto. Vabbè, oh mio Dio, grande. Norbi, poi? Orso e la Boots. Orso, Boots, no, Boots squalificata, la sentiamo dopo, quindi... Ah, ok, allora Norberto, niente. Orso. Ciao, Cigo. Ciao, Cigo. Sì, ciao, amici. Ma poi, se chiamiamo uno e lui ce ne dice tre... E l'altro ce ne dice tre, viene fuori a grappolo, ma sì, tipo rizoma di Deleuze. Certo. Ah, scusa, Guglielmo. Ci diamo noi poi. Cosa hai detto? Deleuze, cosa? Rizoma. Grappolo di Deleuze. Rizoma. È un tipolo. È un bel tipolo, Deleuze, sì. Deleuze. È proprio un bel tipolo. Mica se lo dici bene. Guarda, attenzione. Ma lui non ci ha mai risposto in tutte le edizioni che abbiamo fatto in Zona Rossa. Ci risponderà solo perché l'ha chiamato Cigo. No. Lui sta ascoltando. Lui è superiore. Lui sarà lì che dialoga con... Lui non usa i telefoni in tempi di quarantena, certo, capisci? Lui sta parlando con i referenti delle aree nazionali. Le referenti delle aree nazionali. In tutto questo, con questa regola che abbiamo imposto, non è colpa nostra se non ci rispondono, è colpa vostra. Attenzione, succede qualcosa? Risponde la segreteria che... Cigo, meno uno. Esatto. Cigo, contatti che rispondano, per favore. Esatto. Dai, andiamo da Gigi e via. E via. Sì, però io devo riuscire a trovare il suo numero. A questo punto poi dovremmo capire dove inserire le telefonate invece che vogliamo fare noi. Nel frattempo che voi non mi vedete perché siamo in radio, mi scaccolo palesemente, ho un problema al naso. E squilla. E squilla. E ci risponderà. Dai, lo sa già. Dai, Cico, che un punto lo guadagni. Solo questo può succederti. Beh, Lorenzo, parlaci ancora di Deleuze nel frattempo. Praticamente, quello che stiamo... buonasera, bentornato su Radio ZM. Direttore, buonasera. Buonasera. Ascolta, si se dice... vuoi, puoi sapere chi è che ti ha portato in questa condizione disdicevole, ovvero di parlare con noi. La colpa è di Cigo. Ah, beh, Cigo lo posso perdonare. Ah, ok, noi no, invece, noi per essere così idioti. No, voi manifestate l'odio che solitamente manifesto io per me. Ok. Assolutamente, dall'inizio alla fine. Ciao Orso, tutto bene? Sì, dai, tutto bene. Praticamente abbiamo indetto queste due regole solo per la puntata di oggi, che ci sono due domande che facciamo alle persone a cui telefoniamo, due. Oh, e c'è Lorenzo che continua a sventolare la manina col due, così col le due. Vedi meglio. Esatto. Orso. Ok. Intelligente. La prima è, guarda, la prima cosa che farai dopo il 4, quindi al via libera, in teoria, e la seconda la dici Guglielmo. Sono le tre persone a cui vuoi passare la palla con questa spiacevole inconveniente di avere noi al telefono. Quindi consigliaci tre persone da chiamare che anche non conosciamo, non le chiameremo. Ok, ma la prima cosa che farò o che vorrei fare? Beh, è uguale, quello che vuoi, quello che vorresti fare, via. Quello che vorrei fare è passarmi un pomeriggio tranquillo in compagnia. Hola. Bene. Quello che farò sarà andare a lavorare. Predizione. Ma scusami, tra l'altro c'è già stato un mezzo tentativo di bruciare il posto di lavoro, non diciamo qual è. Sì, poi hanno cercato di allagarlo. Non contenti. Successivamente, sì, da reparto dell'antimafia, diciamo. Uh-huh. Ma neanche questo è servito. Andate a controllare, verificare tutti questi inconvenienti disdicevoli, orribili, che si manifestano in un luogo orribile di Milano. Sì. Avvengono tutti nei weekend. Ma chissà come. Ah. Ma penso un po'. Sabato mattina alle 5. È strano, è una roba incredibile. E tra l'altro è venuto anche fuori un'indagine che poi è scomparsa dai giornali per far spazio solo a Covid, che subito dopo l'incendio, quindi ragazzi, non sono dei rumors, sono delle robe, che la vigilanza della Lidl era inquisita perché il proprietario della ditta aveva dei contatti con l'Andrangheta tramite il quale riusciva a ottenere gli appalti, e uno degli appalti era anche di questo logo qui. Madonna, senti, che ma penso te. Tra l'altro la notizia è tipo di 24 ore dopo l'incendio, quindi ancora più. Dovrebbero farci una serie su Netflix. Dovrebbero farci una serie su Netflix. Questa cosa mi ricorda molto il primo giornalista che ha fatto il collegamento con Conte dopo il comunicato a Reti Unificate, che non gli andava la connessione. Dico, mica siete proprio... Scusi, ma lei magari non prende bene da casa. Uno stato di pagliacci, ma va bene, così? Vabbè, di meglio non potevamo aspettarci, quindi. Esattamente, fantastico. Va bene, Orso, dici chi andiamo a importunare. Tre persone dovete importunare? Sì, perché non sappiamo se rispondono, quindi ci teniamo i jolly. Ah, ok. Allora io direi sicuramente Claudione, il nostro Claudione, ex allenatore di Muay Thai. Yes. Salutatemelo tanto. Poi Jan. Il vecchio giovane Jan. Yes. E ultima, ma non ultima, Sveva. Sveva, giusto. Va bene, Sveva non ci ha mai risposto. Vediamo se ci risponde. Vediamo se ci risponde a sto giro. Nominato da Orso. Va bene, dai, caro. Provate. Salutatemi, ci salutatevi voi. Assolutamente. Speriamo di passare un pomeriggio in compagnia con te il prima possibile. Vi abbraccio. Ciao Orso. Dai. Ciao Orso. Ciao. Va bene, pronti, via, si riparte. Pronti, via, si riparte. Questo tappeto sonoro mi piace un sacco, Guglielmo. Complimenti. Dov'è il tappeto sonoro? Io non le musiche che hai lasciato di sottofondo. Ma va bene, sono bellissime. Massine. Proprio belle. Devo alzarle? No, a me piacciono. Allora, che vuoi? Ho detto che sono belle. Vediamo se ci risponde al telefono anche lui. Ieri c'è stata. Ieri mi ha. Abbiamo parlato di inflazione. Quella. quella roba lì. Buonasera. E bentornato su Radio ZM Zona Rossa. Ciao Claudio. Ciao. Sei in diretta. Io sono Gulli, sei in diretta con Lorenzo. Ebbene sì. Bene. Buona saperti. Ascolta Claudio carissimo, a parte il fatto che continuiamo a fare una spietata pubblicità ai tuoi video che sono apparsi su YouTube, fare fitness a casa è bellissimo perché solitamente vedi questa gente impossibile, tutta vestita, griffata di brutto, fisici improbabili che ti spiegano come fare le flessioni, poi invece c'è Claudio dal profondo di Buginasco che ti spiega sul serio come fare le cose ed è tutto un'altra vita. In pigiama però. In pigiama, ma sì, va bene. Ma va bene. È così che la gente reagisce. Le sfilate ora in pigiama in tuta. Non possiamo guardare queste piccolette. Va bene, Claudio. Allora, davanti ai milioni e alle miliardi di persone che ci ascoltano, ti chiediamo di rispondere a due domande. La prima delle quali è: dopo il 4 maggio, quando il tuo presidente del consiglio ti lascerà libero di andare a lavorare in tutte le fabbriche, gli indotti del manifatturiero, tu cosa farai dopo il 4 maggio? Nel senso, come mi comporterò? Le paure? In che no, senso, cosa vuoi fare? Cioè, tu ti svegli lunedì 4 maggio e che fai? Sei libero. Non vedo l'ora di godermi un cavolo di parco, un picnic, un po' di aria aperta. È un immaginario che ci piace. Spazio aperto. Spazio aperto. Lontano dalla città, almeno quando non dovrò lavorare, obbligato, non sarò obbligato a lavorare, starò lontano. Ah, vai in giro incontaminati. Sì, dai. La natura, siamo all'orto, secondo me diamo un po' più valore a queste cose. Ci sta, cazzo. Quella stagione anche giusta. Fantastico. Dai. Va bene, Claudio. Allora, invece, a questo punto, seconda domanda. Puoi dirci chi vuoi chiamare, chi vuoi che noi chiamiamo? Chi possiamo andare a importunare, le persone che proprio così, che ti vengono in mente, che possono essere disturbate piacevolmente dalla nostra chiamata. Ma anche non piacevolmente. Ma di Zam? Ma anche di no, no, dove vuoi? Anche il tuo capo. Basta che ci dai il numero e lo chiamiamo. Ma cosa fate? Scherzi? Era così, no? No, così noi lo chiamiamo e gli chiediamo le stesse identiche domande che abbiamo fatto a te. Cosa vuole fare il 4? Ma uno Shadi, l'avete già sentito? Vai, no, bravissimo. Shadi, il nostro classico Shadi piccolo. Sì, con la sua allegria colora un po' i pomeriggi, quindi... Esatto, poi altri due? O altre due? Ah, ok, altre due. Cazzo, Orso? No, Orso ci ha detto di chiamarti, quindi però vi pensate. Il tuo mandante. No! Ok, quindi va bene. Beh, più facile, non lo so. Cavoli. Ecco, Filippo del Pacipaciano. Oh, bravo, Filippo del Pacipaciano. Ti do anche il numero, guarda, me ne infamo proprio. Grande, grandissimo. Aspetta, controlliamo se ce l'ho. Poi? Due, cavolo, che cavolo si può disturbare? Non lo so, scusi, dai, aiutami, il terzo dimmelo tu. Vai, secondo me il terzo potrebbe essere Graziano. Prova a mandare il numero. Perfetto. Dai, il numero ce l'ha di Graziano, perfetto. Mandami il numero di Filippo. Mi connetto, lo mando subito, sì, assolutamente, scusami. Vai, ti ringrazio. Poi se ti riesci anche ad ascoltare, vedi come vanno a finire le tue chiamate, le chiamate da te. No, vi ascolto sempre, comunque mi connetto subito. Madonna, grazie, che Claudio, piacere, grazie. Grazie mille. Grandi, bellissimo. Grazie. Figurati. Ragazzi, ciao Claudio, ciao Claudio. Ciao Giorgia. Ciao Ne. Ciao, grazie, ciao, buona giornata. Vedi ora il problema qual è? Ah, yeah. Ma va benissimo. Poi ma non possiamo indietro. Più chiamare Shady. Ma no, perché? No, chi è che aveva consigliato Orso? Jan e Sveva. Ma noi andiamo avanti così. Poi a un certo punto, quando la gente non ci risponderà, inizieremo a scalare. Indietro, anche perché, tipo, Filippo e Pacipacciana ci chiederà di chiamare della gente di cui prossimamente non avremo il numero. Cioè, iniziamo ad andare a finire esatto, sul Veneto. Esatto. Tipo, spostiamo troppo. Lui diremo, salto, cosa fai? E poi torneremo indietro. E va bene. Allora, uno, due. L'ultimo era lui. Graziano, l'ho già detto. Perfetto, via, si attacca, si riparte. Sembra un giro di giostra. Il pusillanime, l'unico uomo che ha fatto un sacco di incontri senza vincerne mai uno, al massimo li ha pareggiati. Vediamo cosa fa. Cosa succede? Ma tra l'altro, e mi raccomando, scriveteci su Telegram, esatto. Chiocciola Radio Zam trattino basso chat. Ricordiamo che dopo arriveranno dei fantastici spot. Mentre io sbadiglio al microfono, esattamente, arriveranno degli spot. Che a questo punto io mi chiedo cosa saranno questi spot. Cosa saranno? È un bel programmino delle compagne. Buonasera. Buonasera, benvenuto su Radio ZM. Ciao caro. Oh, ciao. Da dove mi stai rispondendo? All'oltretomba? Cosa? No, buonasera a tutti. Qui sono Shadi, mi sono appena svegliato. Buongiorno, certo. Shadi. Buongiorno, caro. Non Mara alle 19.48? Non ho tempo di addormentarmi. Ma perché ti sei addormentato di pomeriggio? No, vorrei dormirmi un'oretta. Vabbè, faccio dopo questa bella telefonata. Devi uscire stasera? Devi fare tardi? No, perché poi voglio mangiare. Ah, vabbè, ci sta. Pisolino prima di mangiare. Carissimo, allora, se stai benissimo, è tutto bellissimo? Sì, questa quarantena con il massimo dei comfort è il sogno di una vita. Bravo, mi piace l'entusiasmo con cui lo dici. Beh, si è appena svegliato. Shadi è comunque anche famoso come l'uomo che andava su e giù dalle scale di Gratosoglio, il ragazzo che si allenava presto la mattina o tardi la sera, perché lui, cercando di mantenere il suo fisico atletico potremmo dire, sì, anche se forse no, cioè si sta allenando nelle maniere improbabili per mantenere la sua carriera pugilistica, giusto Shadi? Sì, 18 maggio forse potremmo riprendere a fare allenamenti in palestra. Con la mascherina però, col respiratore. E con distanze. Con la bombola sulle spalle. A porte chiuse. Esatto. No, sì, a porte chiuse, ma si potranno riprendere i contatti. Ancora, è ancora insicura la cosa, però per adesso è così. Ma quindi ascolta, stiamo chiamando chiunque facendo due domande. La prima domanda è: cosa farai dopo il 4 maggio? Abbiamo capito cosa fai dopo il 18, torni ad allenarti in palestra, ma prima del 18, anzi il 4, cosa fai? In libertà. Il 4 si può andare a correre le medie e lunghe distanze, quindi sicuramente andrò a correre. Ti fai una gara agli 800, non... via. Ho 200, voglio farmi 20 km sparati. Oh, hai capito? Attenzione, Shadi. Se la corre, se la corre. Di fianco a Zamba. Scusa, Shadi, no, devo andare, sono al 18esimo. Sì, vabbè, vedendo quanto corre Shadi con la velocità che corre, poi sarà tornato a essere ciccione come eri l'anno scorso. Potrei anche venire lì a Zam. Ma sei voglia, se non ti disturbo. No, anzi... Ma con entusiasmo, Shadi, con entusiasmo. Va bene, ascolta. Lasciamo dormire, Shadi, perché è giusto così. Esatto, sta per scadere, ci devi dire tre persone che vuoi che noi chiamiamo. Eh sì. Ma, potete chiamare Catanzariti, che ha detto di chiamarti, quindi è esatto. Bello che vi pensiate. È la seconda volta che capita stasera. Esatto. E potete chiamare della polisportiva. Vai, chi vuoi? Ma davvero chi vuoi? Se vuoi anche numeri che non abbiamo, tipo non so, un tuo amico, una tua amica, però sappi che a quel punto la roba diventa un pochino più complessa, però ci puoi mandare anche il numero. Dei messaggi da darle. Esatto, da dargli. Va bene, allora potrete fare uno scherzo. No, gli scherzi non li facciamo, non siamo a 105. Li chiamiamo e gli facciamo esattamente le stesse domande. Cosa fare dopo 4 maggio e chi chiamare? Dicendole che hai dato tu il nominativo, ovviamente. Forse. Ok. Allora, vi do il numero di... ti ricordi i ragazzi di Razzano? Sì. Ti do il numero... di Lorenzo, quello piccolino. Vai, va bene, ci sto. Mandamelo e lo chiamiamo. Sì, e poi c'è che... puoi chiamare... così, di pancia, altri due. So, tuo fratello minore, qualcuno a caso a cui fare un mini scherzo. Cioè, se li chiamiamo, sei in diretta! Agostino! Agostino, grande! Dante è stato qua oggi pomeriggio, fantastico. Mi fa molto piacere quell'uomo. Dai, va benissimo. Grande Shadi, TVB, ciao! Ciao Shadi. Ah, ciao ciao. Ci vediamo qua quando passi di corsa. Ciao. Ciao ciao. Sveva. Comunque è la questione è che loro ci danno delle idee. Cioè poi magari anche dobbiamo chiamare per forza tutti. Cioè insomma vediamo quello che ci riesce. Mamma, cosa sta partendo dopo? Madonna Dio. Oddio santo. Guglielmo, evitiamo le canzoni in italiano, sennò si capisce. Ma dove? Uomini di mare. Ma chi lo sta sentendo? Ora no. Ah, lo so, attenzione, sì. Ci risponde. Dai, Sveva, devi rispondere una volta, maledizione. E niente, questo è proprio. Lei è palese, non vuole palese. Risponderci. Ma i due fratelli si mettono d'accordo. Ma veramente? Sanno, il mercoledì l'hanno capito. Benvenuto nel mondo. Ma poi guarda, con tu, dobbiamo essere più furbi. Chiamalo col tu, magari a te risponde. Ma adesso no, sono io ma che secondo sono me. Problema. Proprio, sul privato. Oh, comunque la gente ci sta mandando i numeri da chiamare. Qua ci tiene. Ci tengo a precisare se puoi dirgli che sono. Dai, di pancia. Che sono più forte di lui. Ah, beh, giusto. Un altro. Un'altra cosa. Graziano. Graziano. Ale. Eccoci. E si chiama. Attenzione, qui la telefonata sarà difficile mantenerla sotto i 30 minuti, cioè 30 milioni di minuti. Graziano è uno che parla, soprattutto se gli si parla di scultura. Benvenuto, Graziano, Radio ZM. Ciao, Graziano. Ciao, com'è? Tutto bene, tu? Bene, bene. Io sono Guglielmo, ce l'hai ancora il mio numero o l'hai cancellato? Io sono Lorenzo. Ciao, guarda, non so, non ricordo bene, guarda, rinfrescami la memoria, voglia, scusami se... Sei veramente uno schifoso, Graziano, mi fai sentire male. Guglielmo di Zam, Gulli, quello con cui ti sei allenato per un anno e mezzo. Gulli, cioè, sono immerso in mille storiacce di rette fra... roba di storia dell'arte, qui non capivo chi cavolo era Gulli. una persona impegnata. Graziano, sei in diretta su Radio ZM, che ha all'incirca tutti gli ascoltatori di Radio Cina più qualcuno di Radio 2 Italia, quindi è tipo viaggiamo sul 1.5 milioni di persone che ci ascoltano. Con problemi di connessione ne perdiamo il 5%, ma fa niente, quindi ciao, un abbraccio a tutti i compagni che stanno ascoltando. Manca le compagne. Anche alle compagne. Graziano, una persona dalle ampie e robuste braccia, ricordava sempre Giulio. Un abbraccio rivoluzionario a tutti. Bravo, fantastico. Bellissimo. Ora però, Graziano, scusami, ma non passare più il telefono sulla grattugia, sennò si sente uno spiacevole rumore sottofondo. Eccoci, era adesso, no, semplicemente il rumore del vento. Allora, ascolta, siamo giunti a te perché Claudio, ce la cantiamo subito. Claudio ha detto di chiamarti, perché prima abbiamo chiamato Claudio, perché prima abbiamo chiamato Orso, perché prima abbiamo chiamato un altro compagno di Zam. A questo punto dobbiamo farti due domande, che sono le stesse che abbiamo fatto a loro due. La prima domanda è: cosa farai dopo il 4 maggio? Dopo il 4 maggio? Sì. Vediamo cosa farò. Cioè, sei libero ormai, sono libere tutte le imprese del manifatturiero, possono riaprire, tutti i magazzini che fanno indotto al manifatturiero possono riaprire, quindi anche tu potrai fare qualcosa. Cosa farai? Beh, io spero di riuscire a entrare in acqua. Oh, ecco, che bello. Io sto cercando di entrare in acqua. In acqua? A nuotare. Sì, a nuotare, a scendere qualche onda, perché alla fine sai che credo proprio che se si è vicini al mare, forse uno dei sport più proletari in assoluto è al fine il surf da tavola, dove ti basta avere soltanto una tavola e due braccia e via, e si e va. Basta. Sì, una tavola può durare anche anni, quindi volendo te la prendi da bambino e ti accompagni. Che poesia, che bello, questa mi è piaciuta. Se uno può, è quella è la cosa più proletaria che ci possa essere. Ma quindi, scusami Graziano, tu ci rispondi dalle assolate spiagge della Sardegna o dalle ventose spiagge io della sono, Sardegna? No, io sono venuto giù metà febbraio, ho fatto una mostra, sono andato subito, ho tentato di saldare alcune non è vero, ho tentato, nel senso che mi rimangono comunque molti scoperti, però siccome non volevo andarmene via così a mani vuote, sono passato in fonderia, ho lasciato un lavoro in fonderia, ho pagato parte dei debiti che ho e niente, sono venuto giù subito, insomma qua vivo di pane, diciamo che di pane d'acqua, e quindi va bene così, Ma che meraviglia, ma che meraviglia. Ascolta, adesso noi dobbiamo farti la seconda domanda, però devi cercare di domandarci, di darci dei numeri che stanno all'interno del nostro giro di persone, se no andiamo a finire verso l'infinito e oltre. Devi dirci tre persone che vuoi che chiamiamo noi adesso per fargli le stesse domande, ovvero cosa faranno dopo il 4 maggio e chi vogliono chiamare. Allora, vediamo. Posso dire una cosa? Vai. Guarda, allora, oggi è scomparso Germano Celant. È vero, ce l'hanno detto. Oggi è scomparso Germano Celant e quindi io voglio dare un consiglio di leggere magari poi lo mando anche sul gruppo di Zam, sì? Di leggere le note introduttive, la critica della prima mostra di arte contemporanea, di arte povera, la prima mostra del 67, che si chiamava Appunti per una guerriglia, ed è un testo fondativo esemplare. Io dico che penso che sia un testo critico costitutivo per un modo di immaginare, per tutti i modi di immaginare. Però all'inizio, essendo in quelli gli anni di diciamo anche di protesta artistica, no? Abbastanza, allora, abbastanza. Appunti per una guerriglia ha dei fondamenti veramente rivoluzionari nell'immaginario, quindi ci può stare. Penso che questo è un consiglio proprio oggi, giusto perché ci piace fare così i nostalgici, i compianti, no? Allora, e invece, giusto per allontanarci anni luce, io direi il primo è Giulio. Oh, lo sa- quasi quasi lo sapevo, quasi quasi lo sapevo quello che mi dicevi lui. Ok, adesso, poi? Non so se ha una sua, un suo covo. Veramente, no, purtroppo porta in giro la sua carcassa orrida e ce la presenta qui molto spesso perché viene a fare anche lui volontario con noi a consegnare i pacchi. È sempre un piacere. Fa coppia con Macio tendenzialmente. Immagina solo. Perché fa gli stolti vanno in coppia. Sì. Giulio, poi? Vediamo Giulio, vediamo... Beh, io direi vediamo un'anima della palestra del pugilato Zam, Arneb, cacchio, vediamo se tu ce l'hai ancora il numero? Da qualche parte. Vai, se me lo mandi, se me lo mandi mi fa piacerissimo chiamarlo. Sono sicuro che ci fa scompisceremo dalle risate. Sì. E qua, ragazzi, come non dare quei 15 anni di celebrità a Fergi. Ah, grande cazzo! Ma Fergi, il problema è che il telefono sarà difficile capisce. Ci rispondere, ma magari lo chiamiamo, se non ci risponde al telefono facciamo un urlo. Può essere pericoloso, potrebbe monopolizzare tutta la radio da qua fino a Pasqua. Ci tocca prossimo. Picchiarlo, però va bene, lo faremo con piacere. Va bene, Graziano, grazie mille. Starci bene in quella della Sardegna. I complimenti perché se posso così bellamente con una faccia di tolla solidarizzare, però siete grandi perché ho seguito tutti gli sbatti che vi state facendo sui vari servizi sostitutivi agli antiservizi statali come le spese, le consegne, insomma il volontariato che state facendo, siete encomiabili, grandissimi, tanto non ci sarà nessun encomio ufficiale, sa di no. ci sa di no. Però grandi ragazzi, e mi sarebbe piaciuto fare foto e integrare ancora il progetto di Ruderalis, che è lì fermo e che spero di riuscire a portare avanti quest'estate con ancora foto, però nel momento topico mi sarebbe piaciuto esserci. Va bene, ti ringraziamo, Graziano. Grazie mille, staci bene. Bella, ci vediamo presto, bravo, Graziano. Forza, ragazzi, bella. Ciao. E andiamo avanti. Io riproverei con Roberto. E tu riproveresti con Roberto? Vai, bombardiamoli, porca, ragazzi. Bombardiamoli. Deve pensare che è un problema e deve rispondere. Cos'è successo? Esatto, ma sai che forse se scriviamo in chat sarei va dei fasci, ci chiama lui. Certo, ovvio, assolutamente. Stifoso, ma perché è un compagno vero, però deve essere anche un ospite d'eccezione. Rispondi. Devi rispondere al telefono. Adesso potremmo passare tutta la serata a chiamarlo finché risponde. Zona rossa by Norbi. La cosa bella di zona rossa è che è tutto in stile zona rossa. Cioè, il colpo di testa in generale è zona rossa. L'idiozia è zona rossa. Prima poi il capovolgimento succederà di che qualcuno dirà: hai fatto proprio una cosa zona rossa. Sì. Oh, ma guarda che zona rossa ti faccio adesso. Mamma mia, ma questa è proprio una zona rossa, raga. Ma questa è proprio un'altra zona rossa di nuovo. Porca miseria! Ma io chiamo sua sorella. Andiamo avanti con Rizoma. Con Rizoma. Abbraccio. La smetti di dire brutte parole. Guarda che sei una radio rispettabile. Allora, io vorrei andare a chiamare Bergamo. Vorrei andare a chiamare Bergamo perché secondo me, se chiamiamo la persona giusta, ci spacchiamo dalle risate. Ah, guarda che storia ci ha mandato. Attenzione, c'è qualcuno che ci ascolta in diretta. E infatti ci ha proposto di chiamare. Ci ha dato il Claudio, ci ha dato il numero di Arneb già in diretta prima che arrivasse come si chiama Graziano. Allora, minchia, è arrivato prima. È arrivato prima Claudio. Quindi doppio numero oggi. Esatto. Doppio numero. Allora, numero salvato, si vola verso Bergamo. Via. Aspetta, qua. Eccolo qua. No, persona sbagliata. Non so nemmeno chi sia, tra l'altro. Ma va bene così. È nella mia rubrica, ma non so perché. Ed eccoci qua, beh lui è fortissimo, c'ha una compagna che mena come un fabbro uno degli autori e dei sostenitori del corso di Muay Thai di Pacifico Paciana, sto per dire Zam. Ciao Filippo. Buonasera Filippo. Buonasera. Sono Guglielmo di Zam, ti ricordi? Ciao Guli. Ciao ti caro. Ti posso dire però una cosa, che sto finendo un lavoro, se ti chiamo io tra un'oretta. Sì, ma guarda che sei in diretta radio, quindi hai promesso a un sacco di gente che la richiamavi dopo un'oretta. Attento, eh. Sono in diretta radio. Ciao Filippo, io sono Lorenzo di Zam, sei in diretta. Ciao ragazzi. Ci ha consigliato sono molto di chiamarti. Di essere in diretta. Bravo, ci ha consigliato. Mi sto allenando. Ti stai allenando? Fantastico. Ce l'ha detto Claudio di chiamarti. Questo è perché è giusto che si venga detto. Sappiamo di chi è la colpa e saprò su chi vendicare. Esatto. Dai, allora buoni calci, ci vediamo tra un'oretta. Ci sentiamo tra un'oretta alle 9. Ciao Filippo. Perfetto. Ciao ragazzi. Ciao. Vedi, la gente che non ti conosce inizierà a salvarsi il numero come Radio ZM. Non rispondere. Non rispondere, non rispondere, esatto. Tendenzialmente. Mi allora raccomando, scrivete al canale Telegram Radio ZAM trattino basso chat, vi aspettiamo. Assolutamente, ma adesso ci potete anche trovare ed ascoltare dal sito di ZAM. Se andate a cercare Zona Autonoma Milano su Google, uno dei primi risultati dovrebbe essere proprio il sito del nostro centro sociale, da cui adesso con un player in alto a destra si può ascoltare la nostra radio mentre stiamo chiamando Giulio, mentre tu continui a fare cose col computer alle mie spalle. Perché? Perché lo fai? Ciao Giulio. Ciao Giulio. Com'è? Ciao belli. Ascolta, sei in diretta, stiamo facendo c'è un motivo, c'è un motivo. Vai, dillo tu il motivo. Il fondamento preferito. Il motivo è, Giulio, che stiamo dedicando questa puntata di Zona Rossa a voi. Tendenzialmente qualcuno ha fatto il tuo nome per essere chiamato, perché ha cantato, Giulio. Stiamo chiedendo alla gente di darci i numeri da chiamare, capisci? Ed era in divisa. Cioè, capisci? Che strano. È strano che uno in divisa dica il tuo nome, ma guarda un po'. Quindi stiamo chiedendo due cose alle persone. Una cosa è questa, e la prima cosa che stiamo chiedendo è: cosa farai, Giulio, dopo il 4, quando sarai di nuovo in libertà? Non ci rispondere che farai schifo, perché lo sappiamo già. Raga, Ibiza. Subito. Ibiza addirittura? Ibiza. No, ma va. Ah, cosa faccio? In realtà credo che andrò al lago di Mergozzo. Montagna. Ma lo conosco, è bellissimo. Io non ci sono mai stato. È una favola. L'estate scorsa una vecchia amica che ho beccato dopo un sacco di tempo mi fa: oh dai, sì, dobbiamo andare assolutamente, dai, ti ci porto, andiamo. Era anche una situazione bella, insomma, solo che l'unico giorno in cui poteva era il giorno in cui dovevo partire per andare in Croazia a beccare soci, gente varia. E alla fine fondamentalmente... Una vita in viaggio praticamente la tua. C'è un cazzo da fare. No, è l'estate. L'estate. C'è i soldi da spendere, bravo. Mi ospitavano, ho detto, vabbè dai, era un'Austria Croazia che ci stava. Quindi vuoi andare là? Quindi, yes. Bene, siamo invitati? Grazie, no. Giulio, veniamo anche noi. Mi raccomando, tanto, non dircelo. Ci piace la pasta. Solo perché sei davanti alla gente che ti ascolta. Esatto. Non è che ci hai invitato dicendo: ragazzi, andiamo tutti insieme. Poi in privato chiaramente dicevo: no ragazzi, no, in realtà scherzavo, ma andiamo tutti quanti insieme. No, ci starebbe in realtà una roba tutti insieme super bella. Proprio oggi ero con Macio, si vantava di andare in posti che noi neanche ci immaginiamo, perché lui è allenato, perché lui va in montagna da una vita e fa 1000 chilometri, però quando viene con noi allora... No, però in realtà sicuro, penso che sia una cosa che 1000 persone anche Zan sarebbero ben contente, quando cala la situazione, di andarsi a fare qualche camminata, qualche visita bella su, certo, Alpi, zone senza andare chissà dove, senza spendere, certo, niente, ci organizziamo un po' di macchinate e hop, tenda. E quindi via, questa esperienza bellissima che stai passando con Macio, come va? No, alla fine è un simpaticone... quando è un po' così si dà un po' di aria, no? Si dà un po' di meriti, faccio questo, faccio quello. Ma meno male che c'è Giulio che lo rimette al suo posto, meno male che Giulio il censore, no, meno male che Giulio il saggio, il savio lo riporta alla piccolezza umana che gli si confà. No, ci sta, è simpatico, un grande, alla fine no, mi trovo anche bene, dai. Poi alla fine. Sì, alla fine della fine, bro. Ma proprio fine, ma proprio quando è la fine. Va bene, caro, però secondo me dobbiamo stringere le nostre chiamate, perché sennò andiamo sempre fuori. Yeah. Giulio, ci devi dire 3 persone che vuoi che noi andiamo a chiamare. Non musica, ma numeri. Ok, nomi. Okay. Beh, uno l'hai già detto. In generale, ma in generale persone a sì, caso, sì, sì, sì, cioè, no, no, anche il tuo capo. Potete anche non, potete anche non conoscerlo. Certo. Sì, volendo sì. Dai, dai, dai, dai. Allora, allora sì, sì, sì, sì. Però ci devi mandare i numeri, allora, ci devi mandare i numeri. Allora, sì, sì, sì, sì. Chiaro. Ce le puoi dire le tre persone? Riesci a dirci dei nomi? Sì. Vi... Allora, uno direi Pape. Ok. Pape okay. Che, vabbè, non so se... Non risponde sempre, cioè un po' tipo nonno... Non ti preoccupare, noi siamo veramente invadenti. Richiameremo esatto. Finché vai, non risponde. Fa, assolutamente, prestatelo. Poi, allora, potreste sentire... Vabbè, la Marta Caporale, che è un'altra... Nonostante il nome ci sta, dai. Poi qualcun altro sempre di giri esterni, valgono anche extra, no, extra non ti forzare, no, può essere okay. Veramente chiunque. Extra cosa? Extra parlamentari, Guli. Va no, benissimo. Extra nazionali, no, sì, extra sì, nazionali. Vai, noi andiamo fino in Brasile. Anche extra nazionali? Certo, zio, siamo arrivati in Brasile, davvero? Facciamo i collegamenti no con problem. L'Uruguay. Dai, allora ti faccio chiamare anche Ulisse, dai, che è in Austria. Vabbè, dai, qua dietro l'Austria, prendi la macchina, sì, un secondo, no. Prenderlo, torniamo qua, facciamo Ulisse. Dai, va bene, grande Giulio, grazie. Grazie Giulio, grazie mille. TVB. Ma vi do adesso i numeri? Mandali vai, per vai, manda, Guglielmo. Manda. Noi facciamo delle altre, facciamo delle altre chiamate e poi chiamiamo lui. Dai, balla. Dai, ciao Giulio. Giulio. Io andiamo sto avanti, trancando veramente malissimo le telefonate. Prendi qualche secondo che devo fare un gesto tecnico allora, col telefono. Prendiamo qualche secondo, intanto vi lanciamo un bellissimo spot che è la nuova campagna di Non Una di Meno, che ha aperto un nuovo programma freschissimo tutto per voi. Ma scusami, ah già giusto, allora facciamo così. Avete sentito dei secondi di silenzio perché Guglielmo è incapace regia, ma ora sentirete quello che dovete sentire. Ti stai rompendo? Rompi l'isolamento con noi. Chiamaci al 324-0909-917 tutti i martedì dalle 17 alle 19 o scrivici alla mail raccontiamocela@chiocciolaautistiche.org. Lascia il tuo telefono, ti richiameremo il martedì. Siamo Non Una di Meno, non un servizio specialistico. Vogliamo evitare di perdere il senso di comunità o lasciare qualcuna da sola. Raccontiamocela, parliamo anche spagnolo, portoghese, inglese e francese. E siamo tornati! E noi. Siamo tornati, un bellissimo spot, ringraziamo Non Una di Meno e siamo prontissimi per il martedì con questo freschissimo programma. Qui Zona Ale. Rossa, Radio ZM, freshy, freshy. Chiamate a rotazione, Guglielmo non vuole mettere neanche una canzone per prendere fiato, va bene così. Sì, sai che ci stavo pensando, sarà peccato perché risultiamo fastidiosi sicuramente. Lui ma stiamo è un andando bravissimo. A chiamare chi? Arneb, ciao, colonna Arneb. Portante del corso di Muay Thai di l'anno scorso, due anni fa, ragazzo simpaticissimo. Speriamo che abbia ancora il mio numero. Pronto? Ciao Arneb, sono Guglielmo di ZAM. Carissimo, dimmi tutto. Guarda, ce ne sono qui con un amico. Ciao, sono Lorenzo di ZAM. Ciao. E ora anche tu sei diretta live su Radio ZM. Oh mio oh Dio! Dio! In diretta! Oh, bella raga, come state? Bene, tu? Bene. Tutto bene, dai, noiosamente bene. Ascolta, allora, prima cosa ce la cantiamo subito. Ci ha detto di chiamarti Graziano. Te lo ricordi? Quanti certo. Pugni in faccia che hai preso Graziano, quanti gancioni con quelle sue braccione grosse. Però magari bastardo, facciamo una premessa, bastardo. Dato che non sai praticamente niente. Questo è il programma più idiota di tutta la radio di ZAM, quindi non ti preoccupare di niente. Cioè, puoi dire essere sei più su Zona Rossa. Esatto, puoi cercare di essere più idiota di noi, vediamo se ce la farai, vediamo. Possiamo lanciare la scuola. Ascolta, ma vabbè, ti abbiamo così interrotto nella tua quotidianità della quarantena per farti due domande, che sono le stesse che abbiamo fatto a Graziano, che abbiamo fatto prima di lui a Claudio, che abbiamo fatto prima di lui a Orso, che abbiamo fatto prima di lui a un altro compagno di ZAM, che però non ha nome. E a te chiediamo, come a loro, cosa farai dopo il 4 maggio? Dopo il 4 maggio? Sì, esattamente. Ma sai che non lo so. Sicuramente le seghe nel culo. Cosa? Quelle sono sempre le seghe nel culo, le seghe nel culo sempre... beh, interessante effettivamente. Ma ci dai un rapido affresco, ma se rapido vuoi, rapido un diagramma, tu che sei ingegnere, così lo mandiamo su Telegram, un esempio statistico. Beh allora sicuramente ha una penetrazione logaritmica. Ok, aspetta, ecco. Che scrivo è tecnico, rumore e poi da lì poi da lì basta, lì bisogna, cioè, ci vuole il consulto video, perché insomma, okay. È una cosa che non è che uno la, cioè, non è che uno la fa dal 4 maggio, capito? È una cosa che uno fa tutta la vita, capito? Ok, tipo, no, ma è una cosa che nasci, c'è chi ci nasce, c'è chi no, oppure lo si diventa? No, lo puoi diventare, però nel senso, quando tu lo sei diventato, cioè, poi non è una cosa che varia, cioè non è che la pandemia lo ferma, capito? Certo, una volta che inizi, vai avanti. Arnev, secondo me è molto zona rossa, potremmo chiamarti tipo tutte le puntate e forse lo faremo. A questo punto ci devi dire tre persone da chiamare a cui fare le stesse identiche domande. Qualsiasi persona. Beh, allora, sicuramente Giovanni. Cazzo, grandi, ragazzi, stiamo prendendo il giro giusto di gente, fantastico. Però mi devi mandare il numero, perché mi sa che ho tipo cancellato, ho spaccato il telefono 6 volte dall'ultima volta che ci sono visto. Non ce l'hai il gruppo, non ce l'hai il gruppo Zanbox. Ma scusami, ma voi ci siete ancora, quindi ci leggete? Cioè, certo, okay. io in realtà vorrei anche venirvi a trovare prima o poi, nel senso vedi tu, vedi, hai trovato la prima cosa da fare dopo il 4. Esatto. Per esempio, questa è una buona cosa, esatto. Questa è sicuramente una buona cosa. Tu sei così gentile. Ah, forse l'ho trovato. L'ho trovato perché la sua foto profilo è proprio, come si dice, inconfondibile. Fantastico. Allora, uno Giovanni, poi dunque, fammi pensare. Beh, non può mancare Ricky. Ricky. Ah, Ricky, certo. C'è anche lui sempre in chat? Sì, c'è anche lui. Però sai che adesso mi devi dare una mano, perché io purtroppo tutti questi numeri non li ho persi. Se me lo mandi, facciamo prima. Ok, Giovanni, okay. Ricky, poi? Poi, vabbè, a questo punto chiamo anche Mitch. Grazie, grandi. Non vedevo l'ora di avere la scusa per chiamarvi. Bastardo. Fantastico. Va bene. Ti ringraziamo, Arneb. Passiamo subito alle telefonate a loro. E tu, se è possibile, mandami i numeri, così mi faciliti un po' la vita. Va bene. Grazie mille, Arneb. Ci sentiamo. Ciao. Prossimamente. Prossimamente, dai. Quando vuoi, essere sempre qua. Saluto Fergi. Yeah. Ah, già Fergi. Chiamiamo Fergi. Teniamo indietro. Ciao, Nea, caro. Mica, ha troncato male. Mi spiace, c'ho il dito che mi cade proprio quando devo chiudere la telefonata. Divento un po' brusco. Aspetta, lo raccolgo. Bravo. Mica sei simpatico, però. Complimenti. Sta finendo come il giro di telefonate degli amici Gulli, io lo sapevo, ne ero convinto. Non è che gli amici di Gulli, faccio parte di questo posto da un po' più di te. Scusa, ma me ne vado. No, vabbè, ma allora fammi fuori, dai, facciamo le purazioni come nel Russia del 36. La velocità di Guglielmo arriva prima del suo nome, il suo cognome. Attenzione, freddo, risponderà. Studio un bene se mi mandi al freddo, guarda, mamma mia, in Siberia con i binari. Risponderà. Imparo a mettere giù le ferrovie, mi diverto. Mangio, risponderà. Con gli amici. Niente, canto. Abbiamo fallito. Ennesima volta. Basta. Oh, appena lo vedo, gli tiro una testata, giuro. Porco Giuda. Oh. Niente. Lo spiaccico per terra. Poi do la risposta. Usi l'anime fino alla fine. Stavo mangiando. Cosa devo fare? Rispondi tu, stavo mangiando. Giuro. Terza chiamata senza risposta. Se quando la vede non si prende male, è un problema. Veramente, è proprio scemo lui. Va bene, allora andiamo a cercare altri pusillanimi che stanno sparsi in giro per il mondo. Via, si parte. Preparatevi a un accento che sa dell'estremo oriente. Un inglese zoppicante. Lo sapevo. Lo sapevo. Ma come si fa a raggiungere quello? Lui lo si può chiamare su un altro sistema. Sull'altro magari. Sistema, dai, sì. Proviamo al volissimo. Qua nel frattempo c'è gente che mi scrive. Non dovete scrivere a me personalmente, dovete scrivere a. Su Telegram chiocciola Radio Zam tutto minuscolo underscore, cioè il trattino basso, chat, esattamente, e scrivete direttamente, basta scrivere a Guglielmo, esatto, scrivete direttamente alla radio perché risponde Guglielmo. No, sai cosa potremmo fare da ora in avanti? Diciamo alla gente di mandarci i numeri di telefono sulla chat di Telegram. Così iniziamo a utilizzare il mezzo. Fantastico. Cioè, ma ragazzi, io sono più furbo veramente di nessuno. Ci arresteranno entro l'estate, ma speriamo, va bene così, speriamo. Perché trasmetteremo anche dal carcere. Madonna santa, dal carcere ci diranno basta, riprendetemeli. Non so, arriva. Ma perché non posso chiamarlo normalmente? Posso chiamarlo solo su questo mezzo? Perché la rete dati è staccata dalla rete cellulare. Madonna, se questo poveraccio va in giro. Ciao Fergi. Ciao Fergi, sei in radio in diretta. Oddio. La risposta comune giusta di Milano. Cosa? Ciao comune Milano. Ciao comune di Milano. Culo Fergi. Mi dica Fergi. Mi dica cosa? Sei stato decretato come il più bello di Zam. Ci è arrivata adesso la comunicazione urgente dal governo Zam. Sì, il più bello. Minchia, aspetta, la bellezza dobbiamo definirlo, ma quanto è bello sono, minchia, l'ho visto. Esatto. Sono sempre le schifezze delle cose. Esatto, adesso, esatto. Parlando di schifezze, stiamo portando il casonetto al parchetto del nostro parchetto autoadattito. Esatto. Con il Pop Daddy. Ok. Sì. Va bene. Negro, però. Assolutamente. Va bene, bravo Fergi, grazie mille. Ti volevamo chiedere, Fergi, due cose. La prima cosa è: dimmi, cosa farai quando papà Conte decreterà la tua libertà il 4? Cosa farai quando sarai libero? Aspetta, minchia, che domanda è? Ma io sono abbastanza libero qua, guarda. Azam, la libertà, beh, è sempre in questione, ma sono sempre responsabile. Cioè, io mi diverto così, neanche non mi dice che sono libero, perché sono sempre un clandestino, non ho un documento, cazzo. Io mi aspettavo comunque questa risposta, sono troppo contento. Tu sei sempre libero, Fergi, sei sempre comunque libero. Comunque, la prima roba che devo fare, sai qual è? Qual è? Vado subito alla copestria a stampare l'acetato per la maglietta, che devo fantastico. Fare un po' di soldini. Fantastico, quindi torni operativo in serigrafia. Sì, così stampiamo un paio di magliette e penso di stamparle questa maledetta autocertificazione. così la prossima che arriva questo Covid e siamo abbastanza autonomi. C'è già la maglietta? Cioè, sì, minchia, vai in giro con la maglietta. Poi la lavi, guarda, quando vuoi cambiare i dati. Infatti. Mm-hmm. E invece, Fergi, adesso devi dirci una cosa bellissima. Sì. Devi dirci tu chi chiamare dopo. Tre persone che vuoi che telefoniamo. Allora, tre persone, aspetta. Sarà lì, cazzo, non mi viene in mente. Ah, Marco Dell'Ambreta. Ok, va bene. Marco Dell'Ambreta, quello che fa il DJ. Cioè, Marco del Casa Freestyle. Lucas, se avete il numero. Sì, forse sì, però se ce lo mandi meglio. Sai, poi ti diciamo dove devi mandarci i numeri. Ok. E poi il terzo? Il terzo è... Chiamiamo Samba, Fergi, chiamiamo Samba, che ha visto che è lì con te. No, Kappa. Chiamiamo? Vabbè, chiamiamo Samba. Dai, chiamiamo Samba, perfetto, chiamiamo Samba, va benissimo. Grazie mille, Fergi. Va bene. Fergi, ce l'hai Telegram? Il Telegram no. Ciao Fergi, grazie Fergi. Ciao caro. Ciao Fergi, ti voglio bene. Ti vogliamo bene, ma forse non è vero. Ciao. Va bene, adesso chi chiamiamo? Perché abbiamo diverse persone tra cui scegliere. No, in realtà questa l'abbiamo finito. Rinfreschiamo un po' la memoria di tutti e di tutte. Cioè? Zona rossa, abbiamo deciso di creare questa mappa rizomatica. Guglielmo, calmati. Ma cosa cazzo stai dicendo? Questa mappa rizomatica che è partita da un 1 e poi si è rizomaticamente aperta a un sacco di altri contatti, perché abbiamo chiesto al primo di darci tre numeri. E a ognuno di questi tre numeri, altri tre numeri, e così via fino all'infinito e oltre. Potenza di 3. E ora chi ci rimane? Ma tipo 78 persone. Bene. Da che parte vogliamo scendere? Scendiamo dalla parte della polisportiva o scendiamo dalla parte dell'Ambretta? Non lo so, facciamo. Dai, andiamo uno sull'Ambretta. Dobbiamo ancora tornare indietro a uno di Shadi. Poi c'è Giulio che ci ha proposto delle persone normali, che potrebbero portarci ad altre persone normali. Dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? Cosa vogliamo allora, fare? Allora decidiamo se contaminare le persone normali o farci contaminare dai simili. Non lo so, mi stai facendo una domanda difficile mentre io sto facendo delle chiamate. Quindi ah già, non so che come Guglielmo fare. Non può fare più di una cosa contemporaneamente. Io sono stupido. Quindi sono stupido. Vabbè, vai. Tutto il cazzo, dai, basta. Basta, chiamiamo, basta. È più facile così. Ah, però in realtà sai, sembra essere una persona, sì, una persona normale. È da Giulio arriva? Sì. Da sì, Giulio. Sì, sì, sì. Si chiama Marta. Si chiama Marta Caporali. Facciamo finta di essere presentabili. Okay. Lorenzo? Proviamo. Sarà difficile, quasi impossibile. Per due persone come noi. Facciamo ping pong, diamoci la palla. Pronto? Ciao, sono Guglielmo, mi ha dato il tuo numero Giulio. Ciao, sono Lorenzo. Ciao. Ascolta, ci ha dato il tuo numero Giulio perché siamo in radio, in diretta radio. Sei in diretta su Radio ZM, Milano Sud. Che Che bello, ma se non avessi risposto? E noi ci piace così. È così. Fa siamo... parte del programma. Esatto, siamo un programma un po' strano, un po' così, irruento. Si chiama Zona Rossa. A questo punto dovremmo farti delle domande semplicissime, sono le stesse che abbiamo fatto a Giulio. Sei pronta? Ok. Vai, te le fa il mio socio. La prima domanda è: cosa vuoi fare appena sarai libera il 4 maggio? Andare a un concerto. Attenzione, però forse potrebbe essere ancora un po' troppo presto per andare ai concerti il 4 di maggio. Papa Conte ha detto che non si vera, può. Una cosa... ma ragazzi, io lavoro, cioè in realtà cosa vi devo dire? Non lavorare. Giusto, perfetto, bene, bene. E la seconda domanda te la fa Guglielmo. Se tu dovessi dare a qualcuno questa cosa orrenda, cioè la stessa pena che hai subito tu, cioè noi chi lo chiamiamo, la chiamiamo, no? chi nomineresti del tuo circolo di amici? Sapendo che ci ha consigliato Giulio di chiamarti, quindi cioè una persona orrenda. Orribile. Ma dopo che vi rispondo... Cosa? Marta? Ma... mio amico Simone. Okay. Allora a questo punto se vuoi ci puoi mandare il numero di telefono e noi chiamiamo il tuo amico Simone. Vai, però c'è un ulteriore step che puoi fare per aiutare tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici a crescere insieme al nostro programma che si chiama Zona Rossa. Tu hai Telegram? No. Annaggia, stavi andando così bene, Marta. No vabbè, ma fa niente, non ti preoccupare. Va bene lo stesso. Manda il numero a questo numero. Allora, io ti scrivo un messaggio adesso, riesco a farlo, col mio numero di WhatsApp privato. Dopodiché io ovviamente non userò mai più questo numero di telefono e non ti scomoderò più la vita, perché mi sembra anche giusto che io non ti lo scomodi la vita. Ti scrivo, ciao Marta, mandami il numero. Ci stanno richiamando, Guglielmo. Non lo so, ma veramente? Marta, no, grazie. Sono io che ho messo in pausa la chiamata. Pronto, Marta? Marta, grazie. Vabbè, ciao ragazzi. Ciao. Grazie, grazie. Mandaci su WhatsApp il numero del tuo amico Simone. Ciao. Grazie mille. Ciao. Ciao. Allora, proviamo quello che ci manda quel paese. Ma sai bene, che lo troviamo? Bene, ma forse non benissimo. Nel senso che è un po' confusionaria come situazione, ma ci sta. Va bene, piccolo passo indietro. Andiamo a chiamare Giovanni. Poi dobbiamo tornare indietro ai numeri che ci aveva dato anche Shadi. Giovanni Moetai. Lui è un grandissimo pezzo di idiota. Lui potrebbe essere. Ma io avevo capito terzo. Un altro Giovanni. Mannaggia. Ma no, non quel Giovanni. Non quel Giovanni. Non un altro Giovanni. Ah, no, lei è occupata. Niente, allora che abbiamo una persona fantastica, nonché regbista. Chiocciola Radio Zam trattino basso chat, aspettiamo messaggi di insulti perché in questo momento ce li stiamo cercando a violenza. Tra l'altro minchia, sta diventando anche faticoso fare sta roba, cioè continuiamo a tenere pam pam pam pam pam altissima la tensione. Questo perché? Perché andiamo verso un primo maggio, mio Dio, dobbiamo parlare anche del primo maggio. Dobbiamo parlare del primo maggio, perché cosa succede il primo maggio? Il primo maggio è la festa dei lavoratori. Ciao Michele. Sonti. Ciao Michele. Buonasera, tutto a posto? Tutto a posto te? Ma sì, dai. Ascolta, come ti dici? Io sono qua con un mio amico che deve dirti una cosa. Ciao, sei in diretta su Radio ZM con milioni e milioni di ascoltatrici e ascoltatori. Ok. Grande, Michi, cazzo. Ascolta, punto primo. Il tuo nome ce l'ha fatto Arneb. E senza nemmeno averlo torturato. Cioè, proprio come gli abbiamo detto, chi possiamo disturbare lui subito? Michele, chiamo amici. Ok, me lo segno. Bravo, sai con chi te devi prendere. Seconda cosa, stiamo facendo sempre soltanto due domande. L'abbiamo fatta anche a Arneb, l'abbiamo fatta prima anche a Giulio, l'abbiamo fatta prima anche a Graziano e anche a Claudio e poi altra gente di Zam. Quindi sai chi è la catena di infami che ti hanno, okay, che ti hanno portato sì, fino a te. Sì. A questo punto ti chiedo, facciamo, la prima domanda è: cosa farai dopo il 4 di maggio, quando Conte ci ha detto che possiamo tornare a lavorare nelle imprese del manifatturiero? Tu cosa farai con quel poco in più di libertà che ti è stata lasciata oltre la quarantena? Dunque, io come studente adesso devo trovare i contatti per fare la tesi, quindi dovrò fare un po' di colloqui con vari professori che adesso sono tutti bloccati, perché sono colloqui che dovrei fare di persona. E quindi avrò modo di poter fare questi colloqui. Quindi torni in università praticamente, vai a trovarle all'università. Sì. Ho capito, robe serie. Va bene, allora seconda domanda, questo appunto si fa la cosa fa un pochino più complicata. Ci devi dare, se riesci, il nome di tre persone, anche che noi non conosciamo, quindi che non c'entrano niente con Zam, che noi possiamo andare a disturbare con le stesse identiche domande. È una puntata fatta così, stiamo cercando di farci trattare male da qualcuno che a un certo punto sarà stufo di rispondere al telefono. Dici chi vuoi e soprattutto ci mandi il numero su WhatsApp oppure ci mandi il numero che vuoi su Telegram. Ce l'hai Telegram? Sì. Fantastico. Vi mando nomi e numeri direttamente. Sì, esatto, su Telegram devi scrivere al canale, anzi alla chat della radio. Ok, la e chat, qual è il nome? La trovi così, devi scrivere chiocciola Radio Zam. Ok. _ basso chat. E sei collegato. E sei collegato con noi. Benvenuto. Perfetto, sì. Grazie mille, buona serata. Mandaci il numero, mandaci i numeri su Telegram e noi saremo contenti di andare a disturbare chi tu vuoi. Grande Michele. Ciao caro. Perfetto. Ciao, buona serata. Ciao. Ringraziamo Ludo che finalmente ci chiede di mettere un po' di musica perché ce l'abbiamo. Stiamo svenendo. E ce l'abbiamo il pezzo per lei, signori, questa volta alzo il volume per bene e lo mandiamo a cannella perché ci sentiamo fra quanti minuti? Tipo 2:16, perché noi non facciamo troppa pausa. 300. Fate un respiro profondo perché poi si va avanti. Oh, comincia. Attenzione, comincia la prima puntata. Ah no, no, non stiamo guardando Cowboy Bebop. No, niente da fare, senti Cowboy Bebop. Zona Rossa, Radio ZM, bentornati, bentornate. Vai, siamo già in telefonata. Questa è una chicca, questa è una chicca che è arrivata oggi. Una persona che ci vuole bene, ma forse di più una persona intelligente. Forse sta portando fuori il cane, che ore sono? Ma ha un cane? Sì, ha detto oggi che ha un cane. Sì, sì, che è un cane grosso, bianco. Esatto. Vabbè, cosa vuol dire rispondere al telefono anche se ha preso un cane? Pronto? Ciao Cecilia! Ciao Ceci! Ciao. Cecilia, ciao. Sei in diretta su Radio ZM, benvenuta. Così, a sorpresa. Certo. C'hai praticamente... Bello. Cosa? Bene, bene. Molto bene. Molto bene. È esattamente lo stile del nostro programma, fare telefonate completamente a caso, ma oggi è molto particolare perché abbiamo due domande per te. La prima è... No, perché abbiamo due domande per lei, scusami. Dobbiamo parlare di quello che fa lei per noi. Ah, ma quello lo volevo anticipare dopo perché... Niente, ho rovinato tutto. Ciao Cecilia, è stato bello. Guglielmo, la prima domanda è... Allora, la prima domanda è... Cosa farai dopo il 4 maggio? Quando tutte le imprese del manifatturiero saranno riaperte e anche tutti i magazzini e i servizi dell'indotto del manifatturiero? Sinceramente non lo so, proverò a evitarle tutte, cioè proverò a farne a meno come ho fatto fino adesso e anche prima del lockdown. Una Cecilia contro il manifatturiero, ma cosa ti ha fatto di male l'Italia? Cosa è successo? Chi è che qual è l'italiano che ti ha picchiato da piccola che adesso odi l'Italia? Come mai? Non lo so, sai, problemi sul lavoro, i soliti problemi sul lavoro che creano shock. Ma vabbè, abbiamo invece un'altra domanda da fare. Abbiamo un'altra domanda. L'altra domanda è molto molto divertente. Ci dovresti dare i numeri di tre persone che vuoi che telefoniamo esattamente come è successo a te? No, questo non posso. Primo rifiuto della serata. Se finisce il lockdown mi vengono a tirare le pietre nelle finestre. Giustamente. O le vengono a tirare a noi. Ma sarà un bel momento. No, invece volevamo anche parlare del bellissima cosa che è successa oggi qua in collettivo. Si è animato tutto dopo che abbiamo scoperto su Facebook questa bellissima grafica che è uscita da parte di Cecilia per la brigata Giulio Paggio, che è la brigata di Zona 5. Vuoi parlarci un po' di questa cosa che hai fatto in questi giorni? Perché non è di oggi. No, è di due giorni fa, poi vedevo che non c'era tanto riscontro su Facebook, quindi ho detto, secondo me qua l'hanno vista in pochi, fammi taggare uno o due nomi per farla girare un po'. E ci stavo pensando già da tanto, stavo tenendo sotto controllo i vari crowdfunding che stavano in giro per Milano e dicevo, caspita però, ma perché Zona 5 così? Ma non è giusto, adesso facciamo qualcosa per invogliare la gente a sganciare due soldi. E quindi ho detto, bah, vediamo, questa è una cosa che già le brigate volontarie stavano facendo, c'erano gli artisti che mettevano a disposizione le loro opere, ho detto, vabbè, perché non posso farlo anche io? E quindi ho detto, guarda, questa è la cosa più adatta, perché è un versamento minimo, insomma non è una cifra enorme, e sono dei manifestini semplici, ovviamente l'importante è il versamento, e quindi omaggiamo chi pensa agli altri con un piccolo regalo. Fantastico. Mi sto piacendo, grazie Ceci, grazie. Già metto le mani avanti, quando avremo quel disegno verrà messo in radio tassativamente davanti proprio ai monitor dove guardiamo la diretta tutti i giorni. Come fate? Ok, che lo vedete voi, sì. Non è fatto mettere un disegno in radio. Okay, no, no, no, sì. Dentro va fisicamente bene. Nella radio, che è un posto che spero che vedrai anche tu quando poi sarà tutto finito. No, venici a trovare Ceci. Assolutamente, sì, no, no, poi verrò in radio, io e la radio ormai. Siete così, una coppia fississima. Ma cos'è che volevo dire? Ah sì, che io, cioè, pensa a quelli di Teleton, che fanno Teleton, e parlando di Teleton a un certo punto tipo un ricercatore si gira e fa, ah ma non avevo capito che soldi erano per me. Cioè, io quando tu mi hai spiegato oggi sta roba, mi sono detto, ma quindi veramente sta facendo, io non mi ero accorto di nulla, cioè avevo anche visto il post dell'immagine, avevo visto che l'avevi pubblicato tu, ho detto, ah, ma che bel disegno di Cicita, e sono andato avanti a scrollare nella mia idiozia. Invece il dentello è nostro. Esatto, quando oggi invece mi hai tirato una pentola in testa, mi hai detto, oh, ma ti devi svegliare, cretino, ti stanno dando dei soldi, vedi, muoviti un po', ho detto, mi scusa Cecilia, scusa. E quindi scusa Cecilia, scusa. In realtà è una telefonata di scusa. Vabbè, che scusa, ci vuoi Cecilia. Fare? Facebook è così, uno scorre, vede immagini, ha bello questo, bello l'altro, ma non legge non niente, no? Non giustifichiamo le incomprensioni di Guglielmo che capita una volta ogni 4 secondi. Non giustificare. Comunque, ti ringraziamo un sacco per il tuo rifiuto, perché noi i rifiuti ci piacciono, li accettiamo, quindi non chiameremo nessuno per nome tuo. per carità, ma siete matti. Vabbè, Madonna, ma che amici vendicativi che hai. Per carità, no, vabbè, ma a parte che non saprei proprio chi... vabbè, ma allora, allora come sei sola, non hai amici? No, noi possiamo esserlo. Devo capire... Vabbè, allora datemi i vostri numeri che ve li mando. Vai, e poi ci chiamiamo in radio. Poi ci chiamiamo in radio. Così vi chiamate, esatto. Questo non l'abbiamo ancora fatto, questo. Molto zona rossa. Molto zona rossa, zona rossa, molto vabbè. Zona rossa. Cecilia, c'è un'altra domanda, l'ultima. Ce l'hai Telegram? L'ultima. Chi? Telegram, ce l'hai? No. Vabbè, no, niente. Abbiamo sbagliato piattaforma, Guglia. Telegram, chi? Perché c'è il nuovo canale della Telegram, radio, chi? Tu puoi scrivere no, in radio. WhatsApp chi, Telegram chi, tutte quelle robe lì chi. No, ah, già, no. È vero che me l'hai anche scritto, no WhatsApp, giusto, è vero. No WhatsApp, no WhatsApp. Niente, allora torniamo indietro e ci facciamo un Amarcord. Scegli una canzone, Cecilia, che verrà trasmessa in questo preciso istante in radio. Ma caspita, ragazzi, voi queste robe me le dovete dire prima perché mi sono lenta. Adesso cosa la canzone... Qualsiasi, qualsiasi. Una canzone che ti piace. Qualsiasi. Una canzone che mi piace. Cosa mi... Ma non mi viene in mente niente, ragazzi. Voi prendete alla sprovvista. Vabbè, la Madonna, ma non ascolti nemmeno musica. Sei senza amici, non ascolti musica. Non è che fai beneficenza, però dai, ceci, cazzo. Allora, ascolto musica, non vorrei mettere qualcosa di un po' fuori luogo, un po' su zona rossa, ma stai tranquilla. Tipo qualche pezzo metallaro pesante. Ma va bene, cazzo, va bene, più pesante che puoi. Allora, aspetta, un bel pezzo metallaro pesante. No, andiamo più sul leggero. No, andiamo più sul leggero. Ecco, vai. L'ho trovato. Faith No More, We Care A Lot. Mettete quello. Faith No More. Com'è che si chiama? We Care A Lot. We care a lot. Ci frega assai. Come si trovata? Cosa assai? Cos'è che facciamo assai? Ci frega assai la traduzione. Ci frega assai. Beh, ci sta. Mi sembra una traduzione letterale corretta. Mentre aspettiamo che viene caricato il brano, ti chiediamo qual è la cosa più assurda che hai visto da quando è iniziato tutto questo. Ti mettiamo super in difficoltà oggi. L'ho vista oggi. Scusa. Ho visto oggi una sciura al parchetto mentre portavo fuori il cane che aveva quella mascherina lì fatta con il pannolino per anziani. Quella che un po' di tempo fa è uscita, la ricordate? Io no. Che copre quasi tutta la faccia. Che copre tipo mezza faccia e si vede che è tutta fatta con gli elastici delle mutande per gli incontinenti. Questa sciura oggi, dopo tutto il bordello che era successo, che i sindacati dei medici hanno rimandato indietro questi pacchi allucinanti che i dottori non potevano assolutamente usare, oggi ho visto la prima sciura. Dopo Salvini in fotografia dal vero che aveva su questa mutanda in faccia. Che storia. Ho detto, buona, ma allora è vero, non era un fake. Comunque secondo me quella roba lì viene tipo dallo sceneggiatore di Alien. Avete presente la scena in cui gli alien ti aggrappano la faccia e ti mettono un uovo in gola, esatto, che poi ti sbucano la pancia? Detto, guarda che bell'alien, facciamo che le mascherine design, così. Cazzo. Cronenberg. Brava che citi i registi quelli giusti. È forte Cecilia, l'illustratrice simpatica. Con i culi in faccia. Tutto. Ma due parole sull'illustrazione con i pesci? Bellissimo. A me è piaciuta allora, davvero tanto. Con i pesci è venuta in mente quando c'era un po' l'impazzamento delle sardine, no? Il sardine qui, sardine lì, sardine su, sardine giù. Finalmente questo movimento popular che riempie le piazze. E ovviamente a me, cioè, dopo due volte che ho sentito parlare questi, mi sono scesa le palle per terra. Strano, detto... non l'avrei mai detto, Cecilia. No, una come te. Vedi, una così accomodante, capito? Esatto. Allora ho detto sardine, sempre mentre ero in giro col cane, ma dicevo, ma che sardine? Ma pesci combattenti? Bellissimo. Quindi sono pesci combattenti, ecco. Non pesci rossi, mica sono proprio ignorante. No, ma che pesci? Vabbè, io li ho fatti rossi per un'esigenza, per un'esigenza ovviamente. Cioè, cosa faccio? Mettevo i pesci blu con le bandiere antifasciste dietro, no? No, certo, rosso. Perché sono anche rossi, i pesci combattenti sono blu, verdini e tutte quelle sfumature belle. Però no, sono Betta splendens, nome scientifico dei pesci combattenti. Che storia. Grazie Cecilia. Che storia. A nome di tutto il collettivo, grazie. Mancasse. Va bene, allora vi lasciamo con We Care A Lot, Faith No More. Grazie Cecilia delle illustrazioni, delle idee, della tua simpatia e basta, tornerai ad affrescare le pareti di ZAM. È una minaccia, non una promessa. Ciao Cecilia. Ma certamente. Ciao Ne. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Attenzione. E vai. Eccoci tornati. Andiamo avanti con queste telefonate a rotazione che proprio ci piacciono un sacco. No, non a telefono, non a rotazione, a rizoma. Rizoma, è una formazione del calcio. Allora, grazie, ragazzi, Gil, buonasera, grazie. Stasera scendiamo in campo, ragazzi, mi raccomando, schema rizoma, rizoma, l'albero di tre. Albero 3, giochiamo in 999 stasera. Dai, Marco, rispondi. No, dai, Marco, chiamare Norberto dopo, dai, mi sono dimenticato. Uè, bella Marco. Com'è? Tutto a posto te? Tutto a posto te? Beh, senti, il deficiente che mi fa le doppie, è in realtà una persona che ti deve dire delle cose. Marco, sei su Radio ZM in diretta nazionale e mondiale, tutto l'universo. Ciao, caro. Ascolta, com'è il tempo lì a Lambretta? A Lambretta? Ma è sereno. Ci sta. Sereno. Easy, tranquillo. Sì. Ascolta, noi abbiamo avuto questa pessima idea di fare una puntata tutta strana in zona rossa che tu ovviamente già conosci. Sì. Cioè, dici qualcosa, cos'è zona rossa? Va bene, grazie Marco. No, beh, nel senso, cioè, è un programma su Radio ZM che si occupa tendenzialmente di telefonate di zie. Quindi vorremmo farti due domande. La prima. La prima domanda è: cosa farai dopo il 4? Raga, mi sa che si sta chiuso ancora. A fare i pacchi. Quindi la prima cosa che fai il lunedì 4 maggio, ti svegli e vai a fare i pacchi. È giusto. È un uomo di poche parole. Marco, ti ringraziamo per essere di poche parole. Però c'è una seconda domanda. A questo punto dovrai essere uno dei pochi nomi, non di poche parole. Ti dobbiamo chiedere, dato che allora noi siamo arrivati a te, cioè è colpa di qualcuno se siamo arrivati a telefonare a te, perché tutta la serata che noi chiamiamo, in base a quello che le persone che abbiamo chiamato prima ci dicono, Fergi ha fatto il tuo nome, Fergi se l'è cantato. È lui. Aia. A questo punto tu devi nominare altre tre persone che noi andremo a disturbare stasera. Tre. Ok. Allora, la Ila, a meno che non l'abbiate già sentita. No. Non ancora. Sono arrivati dei doppioni, ma non la Ila. Uno, due. Certo. Poi vi direi Cina, perché se lo merita. Arriva. Giusto, giustissimo. Vai. Poi? E poi... E poi chiamate... Vi chiamate... K, mamma mia, subito. Quasi esiste ogni giorno al centralino. Grande K. Quasi va ai vertici del disagio in quel di via Edolo. Va bene, grazie carissimo. Noi procediamo con le nostre chiamate. E ci sentiamo prestissimo. Ciao Marco, è stato fantastico. Bella. E tra l'altro, anche uno dei pochissimi che è rivasto nell'orario perfetto. Che ponti ci ha dato. Ma senti, ma se invece torniamo indietro e facciamo una chiamata a questo ragazzo qua che è molto simpatico. Dobbiamo. E a lui chiederemo una musica. Così potremmo fare questo schema per cui ogni tanto chiudiamo il rizoma e ogni tanto lo proseguiamo. Così, in questa Guglielmo, maniera. Quando impara una parola nuova la deve dire 10 sono volte. Sono terribile e la utilizzo a sproposito sempre. Va bene, da grazie adesso, Lorenzo. Quando scenderemo a cena saranno i piatti a rizoma. No, non è vero. Che buona questa pasta fatta a rizoma. Non sei simpatico, come trasfonti le mie poche capacità intellettive. Mica non vedo l'ora di chiamare K, giuro. Vedi l'ora di chiamare K? Sì. Te, ragazzo, sentire la voce così. Di K. Lo chiamiamo così, dai, da una nota a servizio di messaggistica. Oh, lui è un bravo ragazzo che veniva a prendersi i pugni, a dare i pugni a Zam. Stiamo chiamando una scelta di Shadi, carissimo Lorenzo, vediamo se ci risponde, se ha ancora il mio numero. Se ce l'ha non risponderà mai. Cioè, tra l'altro, questa cosa che non risponde mi fa pensare a una... Pronto, ciao Lorenzo, sono Gulli di Zam. Ciao Gulli. Ciao Lorenzo, sono Lorenzo di Zam, benvenuto perché sei su Radio ZM in diretta. Mi spiace Lorenzo, ti ho fatto questo brutto scherzo. No. Te lo giuro. Invece sì. E sai di chi è la colpa? Di Shadi, che mi ha detto lui di chiamare te. No. Sì, invece sì. Proprio così. E beh, lui ci teneva a specificare, a dirti che è più forte di te. Però io questo non lo so, onestamente non so giudicare. Dai. Solo per il doppio del peso, dai. Dai, va bene. Giusto quella componente in più. Stai per caso dicendo che Shadi è un po' fuori forma, un po' ciccione? Ma no, certo che no, vero? Sì, giusto un po'. Ah, ricara la dose. Va bene, caro. Allora, noi stasera stiamo facendo due domande che abbiamo fatto anche a Shadi. E Shadi ci ha risposto che molto banalmente tornerà a correre. Vogliamo chiederti, cosa fai tu dopo il 4 maggio? Dopo il 4 maggio in realtà io adesso mi sono ordinato un sacco e mi arriva in casa finalmente. Oh, attenzione. Poi... poi poco prima, visto che la mia palestra era chiusa, però il mio maestro teneva aperto per 3-4 persone. Spero che magari o dopo il 4 maggio 18 riaprirà almeno per 3-4 persone. Se no, corsetta con Shadi. Giusto, e via. Giusto. Andate a dimagrire insieme. Sì, io più di così non posso dimagrire. Ma la cosa bella, Lorenzo, ce l'hai Telegram? Eh no. Annaggia, miseria. Andiamo alla seconda domanda, allora. La seconda domanda è... praticamente, dato che il tuo numero l'abbiamo avuto da qualcuno, noi stiamo chiedendo a tutte le persone di darci dei nomi che vogliono che, che vengano chiamati in trasmissione. Quindi devi dirci dei nomi belli, bellissimi, che chiameremo. Oddio, così su due piedi... non lo so adesso, così su due piedi, ci devo pensare un attimo. Puoi pensarci quanto vuoi, puoi scrivere a Guglielmo tutti i numeri che ti pare. Esatto. Siamo qua tendenzialmente fino alle 10. Ok, va bene. Dai. Va bene, Lorenzo, facciamo così invece, vuoi proporci qualcos'altro? No. Scusami, mi sbiascico anch'io. Di solito noi chiediamo una canzone ogni tanto alle persone che chiamiamo, così chiudiamo la telefonata con una scelta di una canzone. Hai una canzone che hai ascoltato oggi che ti sta frullando nella testa e vuoi farcela sentire? Qualsiasi canzone. Su YouTube? Sì, vai. Allora, si chiama Chic 2. Chic 2, di chi è? Di Easy Rhymes. Easy Rhymes. Ma cos'è, un rapper? Sì, è un rapper. Cos'è, un ragazzo che arriva direttamente da Rozzano? No, è di Cogoleto, ma è uscito un po' di tempo fa. Ah, conosco Cogoleto. Ma come si scrive Chic, Lorenzo? Sai che non lo so. C-H-I-C. Poi chiedi a me. C-I-H-I-C. Mi sa che abbiamo sbagliato a scrivere Easy. Easy Rank. No, Easy Rank. Vabbè, basta che scrivi Chic 2 e dovrebbe uscire. E scriviamo Chic 2. Chic 2. Comunque la parola chic è veramente mia. È una parola molto chic. Mi ha una parola che mi ha sorpreso. Vabbè, ma come sta andando? Eccolo là. No. No. Easy R, Chic parte 2, Julia Rock sì, Mixtape. Sì. Ah, ok, era Easy R, non Easy R. Easy. Lorenzo, ma la cosa più assurda che hai visto da quando è iniziata la quarantena? Un signore che è uscito in giro nudo. No, ma come? Quello in Buenos Aires. L'ho visto io. Eh? Quello sì, in Buenos Aires. Sì, io ero lì tra l'altro. Allora ero è tutto lì... vero. Stavo passando... Eh? È tutto vero allora. Sì, ma ci sono anche i video. È tutto questo incredibile. Ma perché assurdo. È uscito nudo? Si è scoperto? Ce l'ha spiegato lui? Eh? Perché è uscito nudo di casa? L'ha spiegato? Non lo so, io stavo passando in macchina. E non ne volevi sapere molto di più. Infatti. Ci sta. La tua canzone è super pronta. A meno che io non faccia disastri in regia. Va bene, ascoltiamoci questa bella canzone. Ciao Lorenzo. Ciao. Va bene, ascoltiamoci questa propostona di raps dall'asfalto e a tra poco. Julian Ross mixtape. Julian Ross mixtape. Studio stile. G-A-G-A-Y-B, baby. La luna è gruppo dalle trincee. Manco l'avessi detto, da sapone in centro a GE. Faccio foto senza biglietto, senza l'elmetto. A me foto è secca, ti foto la sedia. Se mi permetto, missione completa. Misti corsetto, scritti corsivo. Se scrivo un pezzo, se tiro un pezzo. Non credo proprio, non l'ho mai fatto. Ci vado tosso, sicario, buono, mamma mia. Si vale l'ojo, sta sotto foglio. Non mi copiare, se non lo faccio, sembro solo pazzo. Non da manicomio, flow da carillon. Mi ci sciacquo le palle, ricordo per l'ignon. Poi soffresco e cazzo, mi dirai, mi rispari. Easy rhyme, non lo fai fuori. Ma manco morto, non mollo l'osso. Mi piace troppo, cofondatori di questa merda. Tu conta i fiori, io conto l'erba. Comando droni, smonto mi senza berretta. Con il berretto che mezzo con i fottuti negri. Ma di Cira, cornuti in piedi, fila mecla. Parlo di te, tua mi spunta a tedo. Con guida, nome, vuoi bandana. Mandale in cara, se nadaro. No, se ni carba e se ni chiama. Tra me di rapi, non si coglioni. Sì, nel gioco sempre primo c'è i coglioni. Io sì, a tua frate ci arrivo. Mentre do l'ombi, amollo nella limo. crollo, shake e collo, shake e collo, shake cra crollo, shake mentre rollo, un bigliette qui non te la collo, non mollo, gira la madre sopra il collo e decollo, shake e collo, te cotto e pronto, te collo e shake, te corse corto, fra meglio così, morirò così, un po' da leggenda, un po' da bambino, morirò un po' shake, zero lodi, no ma no di come credi di sbrogliarmi, coi tuoi modi, non armi, con le doti che ammirarmi dovrei, almeno un poco potrei, parlo per gioco, ma se giocassi in fondo poi non ci sarebbe gusto più, io sto su, fra, non so tu, capino sti coglioni, sì, nel gioco sempre primo c'hai coglioni, io sì, al tuo frate ci arrivo mentre rollo un B, ammollo nella limo che decollo, sci, che decollo, sci, che decollo, sci, cra, crollo, sci, mentre rollo un B, te guino, te la collo, non mollo, G, la mate sopra il collo e decollo, sci, che decollo, sci, che decollo, sci, che decollo, chic, che decollo, chic, che decollo. Ed eccoci tornati. Eccoci tornati su Radio ZM, zona rossa molto molto particolare. Ma particolare anche perché ci stiamo avvicinando a un giorno morto particolare che vi parleremo dopo di questo giorno particolare. Dopo, i telefoni squillano qua, andiamo i telefoni dopo. Squillano. Serietà, serietà. Facciamo attenzione. Presumo si trova una chiamata su WhatsApp di un numero che non conosce con la mia immagine da scemo, dall'altro. Non c'è nemmeno la mia faccia, solo la mia immagine. Dove tre conte, mettiamo. Sì, esatto, bello. Sta chiamando. Risponde Conte. Subito. Tu l'hai visto il meme, quello dove c'è Conte che dice: io stavo cercando un modo di farvi capire che dovete firmare da soli la tua certificazione ad amarvi. L'hai visto? Dai, tu che sei uno che si diletta di filosofia con Spinoza. Ah, beh, giusto. Era una cosa per farvi apprezzare Spinoza, in termini spinoziani. Niente, niente. Ma giustamente la giustamente, gente. Giustamente, ma tutte le volte che la gente non risponde, mi viene in mente di chiamare chi non ci risponde per primo. Facciamolo subito. Facciamolo. Quei due là ci dovranno rispondere. Anticipiamo questa cosa bellissima che siamo intenzionati a fare venerdì 1 maggio. Una diretta, ma non lunga, di più. Cioè, infinita. Iniziamo alle 10 e non sappiamo quando finiamo. Immaginatevi zona rossa che va avanti 8 ore di chiamate, raga. Esatto, cioè, esatto. Ci dovete rispondere per forza perché c'è tutto, magari sbagliate, tipo ci che sbaglio. La Iliad ci dice basta, non voglio più il contratto con voi, basta. Ci e pagheranno per non usare il telefono. Abbiamo proposto di fare 8 ore di zona rossa, ma ovviamente il collettivo intero si è opposto a questa cosa. E abbiamo deciso di lasciare spazio a tutti i compagni e tutte le compagne che hanno dei programmi. Purtroppo per voi, lo so, così la vostra noia penetrerà nelle vostre case dalla radio, ma non è colpa nostra. Se questo compagno risponde, gli diremo in diretta la scaletta di venerdì. Maledetto, non risponde. Cioè, a questo punto siamo arrivati alla quarta telefonata e ancora non mi risponde. I casi sono due: o il telefono tipo gli è caduto nel water, oppure cioè, ed è ancora non acceso. Risponde apposta. Non risponde apposta. Prendiamo basta. Il telefono di qualcun altro, ma di radicalmente qualcun altro. E gli tipo quello di Macio. Esatto, bravo, bravo. Adesso l'hai detto, non funziona. Facciamolo chiamare, che so. Ah, perché tu dici che ci ascolta e non ci risponde. No, a questo punto sicuramente ha capito che siamo noi a chiamarlo perché vogliamo parlare con lui o con lei. Esatto. E adesso allora la chiamiamo anche lei, ci dovranno rispondere. Succederà. Perché succederà. Devo usare un altro telefono. Ma a quest'ora il mercoledì mi sa che proprio... La gente ha capito. Maledizione. Sì. Dai, basta, però torniamo alla sponda. Che cattiveria è? Che cattiveria è? Andiamo verso l'ambretta, andiamo avanti con il rizoma perché ormai... Lorenzo, quando imparo una nuova parola devo usarla in continuazione. Hai parlato di rizoma. L'ho insegnata io a te. Ah, cioè è vero, è vero. Ci siamo. Vai, inizia tu che ormai hai un certo appeal, dato che sei diventato un famoso come il compagno che fa dei video bellissimi. Vogliamo un video fatto così, dissero in un centro sociale milanese. E poi? E poi gli fecero vedere un video fatto da Lorenzo. Hey. Ciao Cina, sono Lorenzo col telefono di Guglielmo, come stai? No, non ci credo, sei libero col telefono di Guglielmo. No, sono sempre a Lorenzo col telefono di Guglielmo, cioè qua c'è anche Guglielmo. Ti giuro che è Lorenzo, Davide, okay, giù che cucina, okay. Ma questo ciò non toglie che noi siamo in diretta radiofonica su Radio ZM. Noi lo sai, veniamo doveva succedere anche a te prima o poi. Veniamo a disturbarvi sempre, veniamo a disturbarvi sempre, caro. Sei contento? Ma sì, dai, sono contento. Voi come state? Ma sì, dai, siamo abbastanza bene. Ora il telefono con te è ancora meglio. Ma in realtà ti chiamiamo essenzialmente per due squallidi motivi. Ok. Vai, Lorenzo. Il primo squallido motivo è che il tuo numero c'è stato dato. Cioè, qualcun altro ha fatto il tuo nome, ha detto chiamate lui. E ce la cantiamo subito. Esatto, ed è stato Marco. Ti ha venduto così, mezz'ora fa neanche. E quindi, la prima domanda che andiamo a fare, perché questa puntata l'abbiamo dedicata a queste due domande, la prima domanda è: cosa farai dopo il 4? Cosa farò dopo il 4? Bella domanda, molto bella domanda. In teoria dovrei studiare, sto pensando a cosa fare della mia carriera universitaria, perché l'attività delle brigate mi sta investendo la vita e mi rendo conto che c'è veramente tantissimo lavoro da fare, comunque lavoro che mi dà soddisfazione, perché in un momento come questo poter fare la differenza per tante famiglie è una cosa che ti riempie anche la vita di buone vibrazioni, quando magari stare a casa da solo non ti dà lo stesso. Però dovrei, per affrontare la sessione di esame alle porte, dovrei mettermi a studiare dopo il 4 di maggio. Però sono stato tutto il giorno dentro i quartieri popolari a distribuire aiuti alimentari e c'è veramente tanto lavoro da fare, quindi in realtà non ne ho la più pallida idea di che cosa farò. Perché ricordiamolo, Cina è studente di? Io studio fisica alla statale. Madonna. Questa cosa mi è sempre lasciato di stucco, perché tu studiavi fisica e dicevo, ma come cazzo fa a studiare fisica? Cina, ma insultalo, insultalo. No, ma era positivo, vedete, siete due, ma voi agite col favore della notte. Questo governo non agisce col favore delle tenebre, ricordiamo. Nell'ultimo mese e mezzo non ho toccato neanche un libro e la facoltà che faccio comunque... Cioè, è come suonare uno strumento, no? Se non lo suoni per due mesi, poi dopo certe cose le devi imparare a farle da capo quasi. Certo. E quindi, insomma, mi sto molto interrogando, perché per ritornare al livello che avevo due mesi fa devo mettermi sotto. Guarda, con la vita che faccio ora non ho il tempo per farlo. Non sei solo, Cina, di fianco a te, o meglio, in trasmissione di fianco a te, una persona che sta passando esattamente la stessa cosa, magari non dal punto di vista dello studio, ma da quello lavorativo. Non so se tornerò a fare il mio lavoro dopo questa esperienza delle brigate, perché c'è tanto lavoro da fare e soprattutto c'è anche voglia di farlo, perché è quello il punto. Dobbiamo semplicemente riuscire a nutrirci di aria oppure di muffa che grattiamo dai muri dei nostri spazi sociali. Esatto. Sono fatto quel problema lì, poi sappiamo benissimo ci stiamo lavorando, fare, ci stiamo lavorando. La seconda domanda te la fa Guglielmo. Ma in realtà volevo accederla a te, perché così sei tu l'infamone che chiede di fare i nomi, ma va bene, lo faccio io, perché sì, sono quello stronzo, allora, della coppia. Facciamo una premessa. Cina, almeno tu ce l'hai Telegram? Sì. Ce l'ho. Oh, allora vai. Munisciti del viva voce, vai su Telegram e aggiungi Radio ZM ai tuoi contatti, perché abbiamo aperto la chat. Cioè, raga, siamo avantissimo. Puoi insultarci quando vuoi, H24. Esatto, anche di notte. Quelli di Zanorossa sono delle merde, cosa quindi li fate a trasmettere a fare? Cercando chiocciola Radio ZAM trattino basso chat, devi assolutamente mandarci tre numeri che vuoi che vengano chiamati in radio. Poi se sono persone che verosimilmente conosciamo, il numero magari ce l'abbiamo già, quindi ti risparmi la fatica. Però se invece è tuo cugino che vuoi che chiamiamo tuo cugino, noi chiamiamo tuo cugino, ma ci dai il numero di tuo cugino. Ma no, ma importuniamo i compagni delle brigate. Dai. Ma vai così. Però mi raccomando, sii originale, facci importunare un po' così. Ti lasciamo con questo. Dai, mandaci in giro. Esagera. Via. Esagera. Va bene. Grazie, caro. Mando. Radio ZAM trattino basso chat. È il contatto. Ok. Grazie. Ciao, Nem. Ciao, Cina. Ciao. Va bene. Ma che bravo. L'hai visto? Ma che bravo. Tanto, veramente, quanto è profondo in questo momento. Mi sto interrogando. Ma tu ti interroghi mai, Lorenzo? Ma l'ho detto un secondo fa. Ah, certo. Cioè, è vero, che tu sei una persona sana. Almeno una volta ogni sei mesi. Ti interroghi. Via, si vola, Lorenzo, adesso parli tu, fai tu e voglio che ti prendi tutti tu le responsabilità. Vai. Allora, sto sudando, sono Stai emozionato. Sudando. Ciao K, sono Lorenzo col telefono di Guglielmo. Lorenzo, okay. LLZ. Bene. So che hai capito. Dimmi. Sei in diretta radiofonica su Radio ZM, benvenuto. Ciao K, ci sono anch'io. Grazie. Come stai? Ciao. Bene, ma sono davvero in diretta? Sei davvero in diretta e puoi fare un test direttamente sul link della radio di ZAM, che so perfettamente che conosci. Ah, fantastico. Sei in diretta. Benvenuti a tutti, insomma. Grazie. Volevamo sapere come stai? Bene, sono qua al magazzino dell'Andretta e della Brigata dei Namodotti. Come sta il magazzino? Mezzo pieno o mezzo vuoto? Il magazzino mezzo pieno, dai, perché sono appena arrivati un po' di donazioni dai supermercati, un po' di auto dei nostri volontari che sono lì tutto il giorno e fanno le collette alimentari, quindi ci sta. Ce la stiamo cavando. Poi bisogna vedere con le previsioni meteo, perché avere questo come principale canale per rifornire il magazzino porta comunque ad avere variabilità, nel senso che magari le richieste al centralino si mantengono costanti in alcuni momenti, in altri calano, in altri ricrescono, e mentre quel che arriva dai supermercati non puoi sempre prevederlo, ecco. Ma senti, Kappa, se avessimo più canali... Certo, e più soldi. Ma senti, Kappa, scusa un secondo, ma quell'operatore lì che c'ha il nickname LLZ, come si comporta? Si comporta molto bene, nel senso che non rompe le palle, prende le chiamate, le inserisce... e andiamo d'accordo, proprio come piace a me. Oh, io sono molto molto contento. Oramai ha fatto l'esperienza del supporto di Kappa, che è sempre disponibile, sempre sul pezzo, supporta tutti. Non so, in questo periodo stavamo installando nuove docce, qui stavamo facendo un po' di lavoretti, quindi ogni tanto mi stacco dai computer e vado a sporcarmi le mani. Bravo, con l'economia reale. Sempre... sì, economia, vabbè, con i lavoretti reali dell'Andretta. Guarda, scopriamo subito le carte, ti diciamo subito chi ha fatto il tuo nome, perché stiamo facendo questo bellissimo gioco che è chiamare le persone e farci dare dei numeri da telefonare. Quindi il tuo nome l'ha fatto? L'ha fatto, scusami, Marchino. Marchino, il tuo compagno collettivo, quindi stasera è notte dei lunghi coltelli, Esatto. Anche perché ci ha detto altri nomi, quindi lo saprete benissimo. Fantastico. Chi abbiamo chiamato. E quindi facciamo le stesse domande che abbiamo fatto a tutti e tutte, le facciamo anche a te. La prima domanda è: cosa farai dopo il 4? Cosa farò dopo il 4? Ma lo so già cosa farò dopo il 4. Vai. Sarò ancora qui. Sarò ancora qui all'Andretta in via Edolo, perché sappiamo già che la ripartenza non sarà per tutti dopo il 4. Ci sarà un casino di persone che continueranno ad avere bisogno di assistenza diretta, di cibo e di altre necessità che scopriremo man mano, come abbiamo scoperto strada facendo quella che c'era per i pacchi alimentari. E quindi sicuramente andremo avanti con le nostre attività della brigata anche dopo il 4. Tante discussioni che stiamo facendo è appunto su come portare avanti questo lavoro, come renderlo stabile e come noi stessi riuscire a darci un cambio, a resistere per un altro mese come minimo, per poi portare comunque avanti questa attività in altre forme quando gran parte dei volontari torneranno a lavorare, a studiare. Quindi praticamente il regime d'emergenza almeno un altro mese e poi si cerca di trovare il modo per farlo diventare una cosa continuativa. Attività, sì, esatto. Bello, bello. Complimenti, ci piace molto. Grazie Kappa. Ascolta, invece grazie adesso Lorenzo, che adesso se la colla, perché è lui adesso che ti fa la domanda scomoda, ti fa la seconda domanda. Allora, la seconda domanda prevede un'anticipazione, un'altra domandina prima. Ma ce l'hai Telegram? Ottimo, ottimo. Munisciti del tuo viva voce con Telegram, che aveva già Telegram nel braccio. Nel tuo viva voce e in diretta aggiungi il canale di Radio Teta M, e quando l'hai aggiunto dovrai mandarci tre nomi di persone che vorrai che chiameremo. Devo aggiungermi al canale? Sì, e ti aggiungi così: chiocciola Radio Zam trattino basso chat. Un attimo. E in quel caso poi scriverai con calma dovuta le persone che vuoi che chiameremo. Siamo qua fino alle 10 più o meno. Ok. Ah, fantastico. Quindi posso fare gli scherzi ai miei compagni. Bravo. A questo punto, dato che il compagno che abbiamo chiamato prima sempre della Bretta non ci ha ancora mandato nulla e probabilmente non ci sta nemmeno ascoltando, mandaci anche più di tre nomi. Recupera anche i suoi, così scarica Radio di chiamata. Com'è che devo mettere poi Radio Z post? Radio Z trattino basso chat. Radio Z... Radio Zam trattino basso chat. Sì. Ah, Radio Zam. Okay. Esatto. E così noi, cioè, tu parli direttamente con noi. Cioè, se tu mi scrivi adesso, io leggerò quello. Siamo che tu qua scrivi. Davanti al Telegram della radio. Esattamente. Eccoti. Eccolo là. Hai provato. Eccoti. Pronto. Quando vuoi, K, con calma, rifletti i numeri e i nomi delle persone che vuoi che chiamiamo. Noi nel frattempo procediamo con la prossima devo persona. Mandare quelli buoni, cioè quelli che si stanno facendo il culo, o quelli che delegano? Bella domanda. Beh, io lascerei a te la risposta, vedremo poi nelle telefonate cosa viene fuori, caro Kappa. Che siamo il programma più cattivo e più sincero di tutta la radio. Facciamo un bel mix allora. Va bene, dai. Va bene. Ciao. Ciao Kappa, grazie. Iniziamo a parlare in sincrono, non finisce più. Mamma mia, terribile. Va bene, prossima chiamata. Via, si continua. Sì, andiamo avanti, andiamo sì, avanti. Sì, ricordiamo il canale Telegram. Ma questo non è un canale, però. Questa è una chat. La chat. Il canale è l'altro. Quello lì, sì, giusto. Ah, giusto, il canale è l'altro. No, la perché chat. Se non vi siete ancora iscritti al canale, la cioè, chat. È gravissimo. Ciao, Ila. Ciao, Ila. Ciao. Siamo in diretta su Radio ZM. Ciao, sono Lore, con Guglielmo. Ciao. Ciao, tutto bene? Ti disturbiamo? No, no, figurati. Peccato. Mannaggia, peccato. Il nostro scopo è disturbare la gente, però non ce l'abbiamo fatta adesso. Allora mi disturbate proprio, guarda. Oh, bene, bene, la zona rossa riusciamo a disturbare le persone. Ascolta, allora, adesso il mio compagno Lorenzo ti spiegherà come funziona la puntata di stasera, perché stasera siamo peggio del solito. Vai, Lorenzo. Fondamentalmente noi in questa trasmissione tendenzialmente chiamiamo la gente, ma oggi al primo a cui abbiamo chiamato gli abbiamo chiesto di fare dei nomi e dei numeri, ok? C'è l'infamia, okay. Questa sera sì. C'è l'infamia proprio. Ci ha dato dei nomi e dei numeri. Malissimo. E abbiamo continuato a chiamare, e questo continuo chiamare, chiedere, siamo arrivati a te. E il tuo nome l'ha fatto... Marchino del Casco. Attenzione, bastardo. Attenzione. Bastardo. Stasera voleranno un sacco di schiaffi all'ambretta. Non ti preoccupare che il tutto durerà dai 2 ai 3 ore, no, minuti. Esatto. La prima domanda che andiamo a farti te la fa Guglielmo. Vai. Allora, la prima domanda è, stiamo chiedendo a tutti, dato che domenica sera Papà Conte ci ha regalato un po' di libertà dalla nostra fantastica quarantena per il 4 di maggio, vorremmo chiederti, ma mentre riapre tutta la catena del manifatturiero in Italia, tu cosa farai di nuovo, di diverso rispetto al solito alla quarantena il 4 di maggio? Io ho lavorato, per cui continuerò a lavorare, cioè nel senso, io non mi sono fermata e non mi fermo neanche adesso, cioè, mi cambierà molto probabilmente. Ok, ok. Ci sta, ci noi sta. Stiamo archiviando, quindi, e stiamo facendo una mappatura. Io lavoro in ambulanza, per cui ho dovuto lavorare. Beh sì, beh, mi pare di aver capito che sia stato un periodo, sì, c'è stato lavoro per quelli d'ambulanza, sì, c'era tipo esatto. Un'influenza in giro, no? Non abbiamo capito cosa servissimo in questa situazione, però abbiamo dovuto lavorare anche noi. Ci sta, ci sta, ci sta. Dai, ogni tanto un giro in ambulanza, trovi qualcuno, lo carichi. Così, esatto, sì, giusto. Sì, Ila, ma sì. Giusto per curiosità, sì. Ce l'hai Telegram? Purtroppo sì, è uno dei tanti programmi che bisogna scaricare Telegram. Esatto, sono d'accordo. E ora avrai anche un nuovo contatto da aggiungere, perché è nata la chat di Radio ZM. Ebbene, e sì. Questo ti servirà ad andare avanti nel gioco di adesso. Quindi mettiti pure in viva voce, aggiungici sì. Con chiocciola Radio ZAM trattino basso chat. E quando l'hai fatto dovrai essere tu a fare i nomi. Ah, così? Ma raga, ma che situazione? Come faccio a fare il nome di qualcuno? Guarda che ce li stanno facendo, eh. Marchino il ce li ha fatti. È stato fatto. K ci ha fatto degli altri nomi, perché possiamo continuare a infamare la gente. Stiamo aspettando anche Cina, se la canti e se la canterà, perché vedo già che sta caricando la sua chat. Ma tu non limitarti. Io stavo proprio farti per il nome di Sergio, ma perché? No. Sbattimenti a tutti, io volevo accollargli uno sbatti, invece niente, vabbè. Invece... Ti tocca, ma ti tocca. Come mi devo aggiungere? Non ho capito, ripetimi. Chiocciola, Radio ZAM, trattino basso, chat. Ma dove lo devo fare? Non sono su capace. Telegram basta che cerchi. Fai il tasto cerca, eccoci. Perfetto. Ok. Esatto, scrivici che ti rispondiamo in direttissima. Ma però mi dovete dare un minuto, ci devo pensare. Vai tranquilla. Puoi anche scrivere ciao, così iniziamo a capire che ciao. Ti sei collegata alla pagina giusta. Eccoti. Eccoci qua. Fantastico, ora sei libera. Ok, sono libera. Dammi un minuto, cioè ci devo pensare un secondo. Siamo qua fino alle 10, tranquillo. Tu pensa, noi continuiamo a importunare altre persone. Buon lavoro. Grazie. In quel dell'Ambretta. Grazie, grazie compagni. Buon lavoro anche a voi. Ciao Ila. Ciao. Buona serata. Ciao Ne. Bella raga, ciao. Sai cosa facciamo, Guglielmo? Vai, cosa facciamo? Sai cosa facciamo? Cosa facciamo? Creiamo una serialità. Sai cosa vuol dire? Una serialità? Archiviamo i numeri. Sì. Se non ce la facciamo a starci in questa puntata, ce li portiamo nella prossima e così e via. Avanti all'infinito. Finché non copriamo tutta Milano, poi tutta la Lombardia, poi tutta l'Italia. C'è da dire che effettivamente c'è un più alto tasso di risposta rispetto alle telefonate che facciamo di solito. Effettivamente. Secondo me questo rizoma, questo foglio diventerà un giorno... Un foglio pienissimo. Sì, sì. Avrà un valore inestimabile. Allora, a questo punto la gente scrive davvero. Ma ti giuro, ma ti giuro, scrivono. Adesso abbiamo un sacco di numeri. Tra l'altro, allora, c'è un numero che è radioattivo, ragazzi. C'è un numero atomico. Se chiamiamo questo numero, cioè, finisce ma veramente. Cos'è il delegatore? A schifo. Io ho paura che questo numero qua l'abbiamo già chiamato. Perché lui ha un altro nome nella vita vera. E io ho paura che sia quel nome lì. Allora, ragazzi, Lorenzo, ascoltate Radio Delta M se non volete finire trollati male. Dovete ascoltarlo. Io lo sapevo. Il numero è questo, è lo stesso. Potremmo richiamarlo e svelare il tutto, ma invece andremo a chiamare compagni e compagne nuove, così non andiamo sempre sullo stesso, a piovere sempre sul bagnato. Quindi stai puntando al secondo numero. Sto pensando al secondo numero, ma poi saliremo anche al primo, ragazzi. Io direi che adesso saliamo al primo, poi se si farà un certo orario chiameremo la Buzzi e ci terremo. Manterremo questo rizoma per settimana prossima. Quindi fondamentalmente ci siamo fatti un programma senza fare un programma. Ma siamo dei geni, ci chiamiamo Mediaset, basta che ci chiamiamo sopra dei soldi e abbiamo vinto. Va bene, stiamo chiamando persone che non conosciamo. Pronto? Ciao. Ciao. Ciao. Sono Guglielmo di Zam. E io sono Lorenzo di Zam. Ci ha dato il tuo numero K dell'Ambretta. Oh. Okay. E indovina un po', sei in diretta radiofonica su Radio ZM. Ebbene sì. Te lo giuro. Allora, ci ascoltano circa 300 persone. Al minuto. Tranquilla. Serena, non è che se dici qualcosa ti rimarrà per sempre addosso, no? No. No, no, però cioè, non me l'aspetto. Ma che cazzo? Però abbiamo due domande per te. Che ti scioglieranno sicuramente il ghiaccio e esatto. L'imbarazzo, e non ci sarà più niente, nessun problema. La prima domanda te la dice Lorenzo. Allora, pochi giorni fa è stato decretato una quasi minuscola libertà per lunedì 4. Cosa farai dal 4 in poi? Continuerò a fare quello che sto facendo adesso. Cioè? Volontariato. Ok. Con il Lambretto, ovviamente. Ok. Ci sta. Bello, dai. Comunque si continua a fare quello e continueremo a farlo. Ok. Ma aspetta, okay. Scusami, forse io sono un po' esagerato, ma ho percepito un accento non proprio come cazzo si dice? Meneghino. No, io non sono di Milano. Ok, di dove sei? Sono pugliese, sono salentina. Come mia mamma. Sì. Va bene, cara. Allora, a questo punto veniamo alla seconda domanda. La seconda domanda è ancora più facile, perché allora noi siamo arrivati a te perché appunto il tuo numero ce l'ha dato K, quindi adesso sai con chi prendertela. Tra l'altro, esatto, il numero di K ce l'ha dato Marchino, quindi è tutta colpa di Marchino se adesso tutti quanti stanno infamando tutti quanti. Questa cosa è da sapersi, che dovete prenderla con Marchino. Ma a questo punto tu, dato che hai subito, devi far subire. Cioè ci devi dire tre persone che noi chiameremo direttamente in radio, come te. Ok. Puoi scriverci su Telegram. Esatto, adesso Lorenzo ti spiega come fare a scriverci, perché lui è più bravo di me a dire le cose chiaramente. Quindi hai Telegram? Okay. Sì, ce l'ho. Perfetto. Grande, vai sul Telegram, cerca chiocciola radiozam_chat. Okay. E quando la trovi, che è un'icona rossa e bianca con il nostro Perfetto. Logo della radio, ci puoi scrivere con calma i numeri. Perfetto, allora mi cercherò e mi manderò tutti i nomi che voglio. Brava, vedi come ci piace. L'infamia proprio, chiama altra infamia ma con gioia. Ma sentiti libera, può essere anche il tuo capo. La mamma, tu hai fidanzato, quello che vuoi. Gente che non sopporti, noi siamo spiacevoli tendenzialmente, quindi non c'è problema. Ok, perfetto raga. Fantastico. Grazie mille. Grande Roberta, ci sentiamo, buon lavoro. Ciao, buona serata ragazzi, ciao. C'è da dire però che questo numero che ci viene consigliato abbiamo già chiamato e non fu una bella telefonata. La disturbammo malissimo e ci ha paragonato a... Cos'è che ci aveva paragonato? C'è posta per te. Che roba triste. Non siamo C'è posta per te, non ce lo rivendichiamo, siamo Zona Rossa. E andiamo a disturbare qualcun altro. Vabbè, vogliamo andare col numero atomico? Andiamo vogliamo col numero scegliere atomico. Di che morte morire malissimo? E allora andiamo, ragazzi. A questo punto si invitano tutti i compagni e le compagne a reggersi forte, allacciare le cinture, perché qui si vola non alto, altissimissimissimo. Se ci risponde, ragazzi, dovremmo investire almeno 40 minuti in questa telefonata. Cioè, speriamo che ci... E l'altra volta mi ha risposto, ma il giorno dopo. È vero, mi ricordo perché abbiamo provato a chiamarlo. Sì. Vediamo se adesso ci risponde. Adesso dovremmo fare una roba super frizzante, cosa di incredibile. Ma forse non ci risponde. Forse ci evita questo problema immensissimissimissimissimo. Che vedono sempre il tuo numero di telefono. No, nel senso che lui è una persona che col telefono ha un rapporto un po' conflittuale. Tanto lo vedo, tanto non lo vedo. E niente, dai. Niente da fare, niente da fare. Cosa vogliamo fare? Allora, torniamo su chi ci paragona a... Ah no, guarda, c'è andato c'era un numero. Altro, c'era un altro. Dov'è? Questo qua? No? No. Lui? No? No? No, non è... Ah no, aspetta, K ce l'aveva dato un altro ancora. Questo qua. Vengono sacrificati sull'altare del divertimento, del pubblico ludibrio, anche compagni neoaggiunti, neofiti, che così capiscono in che guai si sono messi. Esatto. Perfetto, bravi, complimenti, fate scapperà bene. Dal collettivo domani, però fa niente. Sì. Per venire a Zam... No, non credo, in realtà, scapperà dalla nostra area politica perché non può... Pronto, pronto, ciao! Sì. Ciao Andrea. Ciao, con chi parlo? Io sono Guglielmo. E io sono Lorenzo. Il tuo numero ce l'ha dato K. E sei in diretta su Radio ZM. Bravo, grandissimo. Ciao. Ciao. Ditemi tutto. Allora, ascolta, la cosa... Bravo, intanto è una persona positiva. Uno spigliato, che finalmente non si prende male nell'imbarazzo. Grandissimo. No. Noi te lo diciamo tranquillamente. Radio ZM fa più o meno gli ascolti di Radio 105. Quindi domani qualche milione di persone potrebbe dirsi: ma Andrea, come cazzo stava ieri sera quando rispondeva così? Ma sereno, tranquillo, non ti mettiamo a pressione. Esatto, sereno, senza che nessuno me lo dicesse. Allora, noi stasera stiamo facendo un gioco abbastanza cruento. E funziona così. Noi abbiamo chiamato una persona che ci ha dato tre persone, che ci ha dato altre persone, e seguendo questa catena siamo arrivati fino a te. E quindi c'è qualcuno che ti ha infamato. E questo qualcuno è K. A noi ci piace commentare l'odio e la rabbia tra le persone. Molto bene. Sì, sì, ci ha detto è uno nuovo lui. Allora, a questo punto quindi ti facciamo due domande, ma te le fa Lorenzo. Allora, tieniti vai forte. La prima domanda è: quando lunedì riacquisteremo un pochino, ma un pochino, di libertà, cosa farai? Cosa farò? Continuerò a fare quello che sto facendo adesso, continuerò ad avere un occhio di riguardo per chi è più debole e per chi non è nella mia situazione più di stabilità. E quello che farò sarà continuare anche a guardare, informarmi e a vedere se davvero succederà qualcosa di differente e intorno a me le persone come le prenderanno. E poi niente, sempre avere questo occhio di riguardo che è molto importante, perché si pensa che un giorno finirà tutto, ma un giorno non finirà tutto. Anche se torneremo liberi in strada, ecco. Ma Lorenzo, ma quindi quella storia che Lambretta ordinava i militanti su Amazon è vera? Fatti perfetti. Cioè, ma veramente? Ma precisi. Questi ti fanno il metodo Ludovico quando... Poi ci mandi il gobbo. Davvero? Ma veramente, non lo so. Ma, cioè, che cazzo è uscito dalla scuola di partito? Grande cazzo! Grande, bravo! Bravo! Così ci piacciono i compagni. Hai fatto piangere almeno 20 persone che hanno ascoltato in questo momento. È quello che abbiamo dentro, è quello che abbiamo dentro. Madonna! Io dentro ho degli organi, della materia puzzolente. Lui ha la solidarietà. Lui invece ha la solidarietà dentro, sì. Cazzo. Tu questi che sono sempre bravo, ci piace. Poi, seconda domanda, vai. Seconda domanda che prevede una spiega prima. Hai Telegram? Ho Telegram. Bene, sì. Vai su Telegram, metti pure il viva voce, non ci interessa la qualità del suono. Cerca Radio Zam trattino basso chat e mandaci un bel messaggio con tre nomi. Fai tre nomi, Lorenzo, falli. Fai i nomi, cantatela. Nomi cantatela. E numeri, nomi e numeri. Perché qualcuno se l'è cantato. Radio Zam trattino basso chat, mi raccomando, allarga il giro, vai dove vuoi, puoi farci chiamare la tua ex ragazza, il tuo ex ragazzo, il tuo capo, tua madre, chiunque. Radio Zam trattino basso chat. Non me la sta trovando. Ma no, insisti. Hai messo la chiocciola all'inizio? No. Chiocciola Radio Zam trattino basso chat. Ha un'icona rossa, bianca, con un fumetto. Non me la sto trovando, ragazzi. No, ti giuro che alcuni tuoi compagni e compagni ci hanno scritto, quindi ti assicuro che ci siamo. Radio Zam trattino basso, trattino basso. Trattino basso chat. Sì. Ragazzi, allora. Mannaggia. Allora, riavvolgiamo. Chiocciola, Radio Zam, scritto tutto attaccato. Chiocciola, Radio Zam, trattino basso. E non ti cerca niente. Trovato. Eccola. Hai visto? Scrivici. Ti devo scrivere nome o mandare contatti? Ma scrivimi i numeri. scrivimi i numeri e così poi li chiamiamo. Numeri, nomi. Allora, se Lambretta, ovviamente, se vuoi continuare a infamare i compagni, ci sta bene. È successo nella storia, no, vabbè, non è vero. Non scherziamo su cose troppo serie. Però, se vuoi, gente che fa parte di Lambretta, gente che fa parte della storia politica, ma se vuoi anche il tuo cugino, tua mamma, lo zio, l'amico, un'altra persona, il tuo nemico acerrimo, quello che odi, così noi lo andiamo a importunare. Noi facciamo questo servizio pubblico, siamo fastidiosi. Molto. Fantastico. Allora. Però la gente piace, sì, hai visto? Sì, fai i sicari, sì. Prende bene. Sì, sì, sì. Quando infami la gente, poi. Esatto. Va bene, allora tu pensaci pure e mandaci i numeri che vuoi. Eccoci. Eccoti qua. Okay, ti abbiamo visto. Perfetto, perfetto. Adesso ti rispondiamo per farti vedere che non siamo dei robot. Perfetto. Okay. Grazie mille. Allora, se non li chiamiamo stasera, li chiameremo la prossima sera e non ci fermeremo qui, saremo implacabili. Grazie anche... mille. Va bene. Grazie a voi. Ciao, Andrea. Io ho spento i microfoni così per cambiare un attimo. Lei, facciamo caro una cazzata, Guglielmo, il per alleggerire il carico chiediamo un numero solo. Chiediamo un numero, sì, solo? Ma però sì, così. Perché è diretto, le... tre sono tanti. Tre sono tanti, poi devono scegliere le preferenze. Non è, no, è ancora Arizona. È Arizona, il paese della Madonna, questa era bellissima. Senti, c'è una canzone molto leggera dei Slipknot, 4 minuti. La mandiamo e poi assolutamente sì. Dai, così prendiamo fiato. Quindi, ascoltate Radio ZM. No, vedi che però lui ce l'ha mandati più di uno, eh. Hai visto? Adesso magari non ci mette nemmeno il nome, chissà come andrà a finire. Va bene. Basta, passiamo direttamente alla traccia. Ascoltatevela, ci sentiamo tra poco. Buzzi, preparati, a ciao. Tra poco. Remain there till I waste our retriever. E in realtà microfoni spenti facciamo di quei discorsi. Ma di quei discorsi. Dai, prendiamoci un attimo. Il primo maggio tenetevi forte, ma forte, forte, forte, perché la scaletta si presenta così. Allora, scusami, stavo cercando di capire già di rispondere alla gente su Telegram e mi cogli di sorpresa. La scaletta si compone così, c'è un corteo il primo di maggio, anche se non ci si può radunare, noi lo facciamo lo stesso perché siamo troppo forti e ci lanciamo in queste cose spericolate. Il corteo inizia alle 10 e finisce a notte fonda. È un corteo lunghissimo con degli spezzoni infiniti. Il primo spezzone è il nostro, è zona rossa. Madonna, sa, sempre in apertura. È zona rossa. Ci costringono le due ore e ci faremo bastare. Veramente, dovremmo stare tutti schiacciati. Però la cosa bella è che a colazione, perché è alle 10. Minchia, vero? Cappucce, brioche e zona rossa. E via, rutti a sapore di caffè latte. Esatto, e si va. Proprio e si molestia vola. Mattutina e con ospiti fantastici. Ma proprio che. Non avete idea, vogliamo già confermarli. Annunciamo. Prego, Guglielmo. No, per carità, fai tu, annuncia tu. Stasera sentirete un grande vuoto. Perché Andrea Staid gli è stato chiesto gentilmente di presentarsi il primo di maggio a questi microfoni, ovviamente in remoto, quindi avremo l'onore, il piacere e lui meno della nostra come presenza sempre. E noi della sua. Chiara Buzzi con le fantastiche sue prelibatezze, perché lei invece la importuniamo anche stasera, quindi fra un po' la chiamiamo, però sarà presente anche il primo di maggio e... Ma non ho cioè, mi sono perso perché stavo cercando di capire che cazzo vuol dire. Dici, dopo. Dici. Quindi, di Andrea Staid l'hai già detto? Certo. Ah, ok. Assolutamente. Chiara l'hai già detto? Certo. E allora arrivano subitissimo i compagni e le compagne della Camera del Non Lavoro. Oh yeah. Ci racconteranno per filo e per segno cosa sono riusciti a fare riguardo alla campagna sul reddito di quarantena. Fantastico. La figata atomica. Fantastico, salutiamo tutti e tutte. Potrebbe andiamo essere avanti. Una bella puntata, quindi quella del primo maggio. Potremmo quasi dirvi... Non lo voglio dire. Ascoltatevi. Non lo voglio dire. Ascoltateci. No, stiamo sempre sui 3-4 che ci piace. Ok, dai, siamo così le ribelli sono contenti. Amici, esatto, che sono loro ci ascoltano un socco. Dovete fare questo, quest'altro. Esatto. Andiamo avanti e scivoliamo verso il pranzo con spezzone delle 12 biografie rivoluzionarie. Ahimè, ci sarò anch'io. Guglielmo. Anzi, non ahimè, ai voi ci sarò anch'io. Ma per fortuna ci sono anche persone serie tipo Davide. E faremo e parleremo ovviamente di biografie di lavoratori e lavoratrici rivoluzionari rivoluzionarie che hanno fatto cose grandi i primi maggi, ma anche non soltanto nelle lotte sul posto di lavoro. Bene, ma non benissimo, perché poi andiamo in un punto pranzo. Che forse è uno dei miei preferiti, toccante. Perché dovrebbe partire una selecta musicale. Ma quindi è la prima di tante? È la prima di tante, si è proposta a lei, come era giusto che sia, come è stata esortata a fare. Lei DJ ha preparato un mix tutto per noi. Mix di pranzo. E tutto per voi. Dalle 13:30 un'oretta di musica di Lady J. Accompagnata con ovviamente un aperitivino. Sì, esatto, insomma ci dilettiamo perché anche durante i cortei si mangia, si beve, si va avanti. Ma poi alle 14:30, dillo tu, non ci riesco. Alle 14:30, oddio, è sparito. Alle 14:30 ci sono le fantastiche pillole di ecologia di Cesa e Riccardo. Oggi è andata in onda la quinta pillola di ecologia. Bella, è stata molto bella, sì, esatto. Scivoliamo verso le 15:30 con dirette dal Nuovo Mondo, risentiremo il Melmo. Voi pensavate di poter fare Pennichella il primo di maggio? Ma voi siete in corteo da 5 ore, dovete restarci ancora 16 ore, quindi vi fate sto collegamento con l'Uruguay che minchia troppi schiaffi in faccia. Esattamente, e chiudendo con l'Uruguay si va alle 16:30 con Le Ribelli. Ale. Sempre composta la musica da Lady J e DJ Utopia. Quindi ritorna. E poi finiamo nella testa, la testa principale del corteo, che è una set di cortocircuito che parte alle 19:30 e non vede la fine. Non finisce mai, mai, mai, mai. Ci sono delle voci di corridoio che raccontano che forse potrebbe esserci una conclusione trash. Sì, ho sentito. Vediamo è arrivato se un così eco. C'è arrivato un colpo eco. Di coda in stile zona rossa, c'è una zona rossata, una roba del genere. Insomma, che probabilmente la radio esploderà venerdì. Ale Baga, se ci senti. Magari. Ale Baga, se ci senti. Cosa? Ale Baga, cosa? Noi anticipiamo cose che non abbiamo nemmeno deciso tra di noi, ma va bene, ma va bene. Va secondo bene, me è così. Arrivato il momento di arrivare al punto della puntata più caldo, più saliente, più succoso, caldissimo. Più cicciotto. Prendi del tempo. Prendi prendo del tempo. Allora, come è venuta fuori questa cosa del primo maggio in radio? Vogliamo parlarne? Ma non lo so, è tipo emersa tipo foruncolo in fronte, no? Esatto. Cioè una specie di ganglio che si forma perché ti forma della spuccizia. E quando poi tenti di schiacciarlo, esplodono i programmi. Madonna santa, saltano fuori proprio pieni di pus. No, una cosa molto molto bella che io vi consiglio di fare, e se non l'avete ancora fatto, fatelo, è di andare sul bellissimo, scintillante, nuovo, bellissimo sito di ZAM. Fantastico. Quindi zam-milano.it, e da lì potrete fare tutto adesso. Ma tutto. Il desiderio mio, che voglio che sia più condiviso possibile, è di abbandonare completamente Facebook a livello di scrittura, quindi farlo diventare soltanto un rimbalzo di quello che è il nostro bellissimo e scintillante sito. Siamo per la diaspora. Siamo per la diaspora, sì, e ora finalmente, sì, abbiamo i mezzi per farla. Esatto. Andate sul sito, dal sito potete ascoltare direttamente la radio senza uscirvi. Dal sito potete... ho sbagliato. No, no, è bellissimo, questo suonava aulico, questo uscirvi. Dal sito potete benissimo consultare tutti i programmi che facciamo, perché c'è una sezione dedicata apposta a Radio ZM. In questa sezione vedrete le icone dei programmi. Se cliccate sull'icona finirete nell'ultimo podcast disponibile. Cioè, meraviglioso. Tutto questo è incredibile. Il podcast, la radio, fantastico, il primo maggio, il corteo di dura 70 minuti, il canale Telegram, le mille telefonate, le mille infamate che state facendo sono fantastiche. Andiamo avanti così. Comunque questo è come quell'esperimento fatto dopo la seconda guerra mondiale, per cui chiedevano alla gente di dare le scosse alle persone. Le persone davano le scosse. Esatto. Ma non ti dà la possibilità, esatto, alla gente, esatto, di essere una merda. La gente è una merda, bellissimo. Sì, sì, ma poi glielo condisci così, in modo simpatico e gogliardico. Ma allora va bene, ma sì, ma picchialo, ma quello, no? Della gente che non hai mai conosciuto, che magari sta facendo cose importanti. Fale come me. Insultare da due deficienti che, esatto, proprio non stanno né in cielo né in terra. Comunque, Lorenzo, adesso prenderò io del tempo per permetterti di fare ciò che è necessario fare. Allora, oggi abbiamo terminato una cosa importante. Rispettando le distanze di sicurezza, siamo riusciti finalmente a terminare 7 cassoni per la nostra produzione agricola di autoindipendenza. Giusto. Ed è una cosa molto bella, una cosa molto bella, perché da domani Cesare dovrà lavorare di brutto. Attenzione, in questo modo siamo sulla cresta dell'onda del mare di Palta. Anche se io continuo a soffrire di infobesità. Minchia, sembra le domande per i nonni. Boh, comunque, cioè, sono tutte cose che tu dici, ma che potevamo benissimo vivere senza saperle. Guglielmo, questa è una ricerca base. Allora, questo potrebbe essere anche nozionismo senza un perché. Sembri una spremuta di zucca oggi. Allora, va bene, ma non mi raccontare la rava e la fava. Oh, ma sti cazzi teca. Ma guarda, io tornerò a guardarmi la mia collezione di francobolli. Che assomigliano alle gondole sul comodino. Ma questa è una tipica espressione da nonno, anzi questa è una tipica domanda per nonno. E invece questa è una cosa che potevamo benissimo vivere senza sapere. Ma guarda, secondo me semplicemente la questione è che il sapientino colpisce ancora. Tipo la rava e la fava. No, guarda, quello è sfoggio. Hai sbagliato! Perché? L'avevo già detto io, la rava e la fava. Hai sbagliato, e quindi, come sempre succede, bisogna passare all'unico momento semiserio della puntata, perché Stide ci ha pisciata la grandissima. Esatto. Non ci pensava nemmeno di sentirci due volte. No, no, assolutamente. Chiara Buzzacchi, noi ti invochiamo, vieni a noi! Sarà a tempo giusto, e lei rispondeva, era tipo una cosa più bella. Lo monterò così, Guglielmo. Avete sbagliato in due, raga, anche le domande per i nonni le avete dette tutte e due. Cazzo, veramente? Non ci stiamo più dentro, basta, falliti, non ci stiamo più dentro. Falliti. Ciao Chiara. Neanche un mese e mezzo e siamo, ciao, già cotti male. Ciao Chiara! Ciao! Ciao amici, ma che figo che è questo sito di ZAM, ma è bellissimo! Hai visto? Cioè, per una volta non è neanche una fake cosa, cioè lo sto guardando proprio in questo momento per la prima volta ed è veramente figo. Io in diretta nazionale, mondiale, universale, vorrei ringraziare tantissimo Carletto, che ci ha supportato per 3 ore su Zoom l'altra notte per aiutarci a pimpare al massimo questo bellissimo sito. Grazie Carletto. Ma è meraviglia, guarda. Quante nuove sezioni ci sono? Ci sono un sacco di nuove sezioni. Ma proprio bello. Pazzesco, pazzesco. Vai su Radio ZM. Guglielmo lo sta guardando ora per la prima volta. Trattino@milano.it, avete detto? Esattamente. L'abbiamo detto. Trattino alto, come si dice in inglese? Se underscore è basso, no, upscore. Non è upscore. Boh. Score, nel senso di punteggio. Salutiamo Riccardo, è sempre nei nostri cuori, i nostri pensieri. Grazie, Ricky. Va bene, Chiara, ma veniamo a noi. Come al solito ti abbiamo avvisato con grandissimo anticipo del tema di cui ti volevamo chiedere stasera, perché noi siamo persone serie che lavorano bene, soprattutto la mattina, mentre Lorenzo fruga col coltello. La marmellata. Esatto, fruga la marmellata. Esatto. Ma è questo adesso tutto tuo. Raccontaci. Allora, io muoio. Intanto vogliamo spiegare di che cosa si parlerà quest'oggi? Vai, spiegalo tu. Allora, praticamente... La puntata è tipo economia for dummies, in realtà yes. il tema è molto molto stretto, nel senso che stiamo cercando di capire che cosa cazzo riapre. Esattamente. Cosa rimane aperto in realtà, visto che finora, come sappiamo, non è che ci fosse proprio una serrata generale del settore produttivo a partire dal 4 maggio. Yeah. Allora, praticamente, perché voi giustamente più di una volta avete fatto riferimento all'attività manifatturiera come uno dei centri pulsanti di questo stravolgente decreto ministeriale. Allora, però io la prendo un po' larga, come al solito, perché insomma l'economia sordale, dobbiamo partire dall'economia come la impariamo alle elementari. Yeah. Quando scopriamo che ci sono il settore primario, il settore secondario e il settore terziario. Ok. Allora, cosa c'è in questi tre settori? Nel primario c'è l'agricoltura, lo sfruttamento dei boschi, l'attività mineraria, la pesca e l'allevamento. Quindi piante e animalini, ciomelo diciamo, ecco, per intenderci. Nel secondario ci sono invece tre, diciamo, settori di industria, cioè secondario è l'industria, no? Ci sono tre settori di industria. Il primo è l'industria di base, che comprende le attività che lavorano le materie prime e producono o i semilavorati o i macchinari per le altre industrie. Quindi c'è la siderurgia, la metallurgia, la metalmeccanica, tutte queste cose un po' retro che ci piacciono di brutto. Minchia. Così che si respira proprio il socialismo reale. Oh mio Dio, bellissimo. Socialismo reale è proprio bello. Quindi siderurgico, metallurgico, metalmeccanico, chimico e petrolchimico. Ok. Queste invece non ci piacciono molto perché sono quelle dei privati che vanno a dare fastidio alle colonie. Insomma, esatto. Diciamo. Un po' meno socialismo. La seconda parte è l'industria di trasformazione, che produce beni direttamente consumabili o utilizzabili. Ok. Quindi l'alimentazione, automobili, cantieri, la farmaceutica, le calzature, i vestiti, gli elettrodomestici, vari oggetti, insomma, qualsiasi cosa. Alle elementari impariamo anche i giocattoli. Certo. Alla nostra età impariamo anche i giocattoli. Certo. E il terzo pezzo, diciamo, è l'industria avanzata, quindi quella che utilizza tutte le tecnologie, l'elettronica, informatica, l'ingegneria, telecomunicazioni e l'aerospaziale di Yuri Gagarin. Anche qua c'è un po' di socialismo reale, ce lo dobbiamo mettere. Socialismo eroico. Esattamente. Ora, nel terziario, che cosa ci va? I servizi. Certo. Quello che si chiama i servizi in realtà non è vero, è tutto il resto, praticamente qualsiasi altra cosa non ricade in questi due primi settori, ci va tutto il resto, quindi l'educazione, la sanità, il turismo, il commercio, lo spettacolo, le telecomunicazioni, ovviamente il settore bancario e assicurativo, che ci mancherebbe. Quello ci piace di meno. Esattamente. Ora, poco socialismo reale. Molto poco. Poco socialismo reale. Ora, recuperando sempre le informazioni, diciamo, che abbiamo dalle scuole elementari e medie, salta fuori un gran casino rispetto al fatto che noi impariamo il termine manifattura un po' come la preistoria dell'industria. Nel senso che noi sappiamo che c'erano gli artigiani, i tessitori, che poi si riuniscono tutti sotto un grande capannone e filano tutti insieme il filatoio meccanico, no? La spinning jenny, si mettono tutti lì, quella lì è la manifattura, poi arriva Watt col motore a vapore, scatta la rivoluzione industriale, tac. Fabbrica e industria. Madonna, mi sento già più illuminista in questo momento. Mi viene voglia di dire abbasso Dio viva l'uomo, quelle cose lì. Esattamente. Ora, qual è il problema? È che quando poi adesso, come adesso, il buon Conte ci dice, noi ci sentiamo dire l'attività manifatturiera, no? Noi ci immaginiamo le donne con i gonnelloni, i bambini con le dita sottili che filano con la filatoia a pedale. Un po' di cinghiate sulla schiena, si vota per censo e cose del genere, insomma. Fucile d'avancarica, Napoleone con la mano sotto il cappotto, cose così. Esatto, invece no, ovviamente niente di tutto questo, o perlomeno in realtà sì, ovviamente, nel senso che gli storici fanno uso di questi termini in questo senso, e in realtà anche in senso lato, nel senso che quando parliamo di manifattura dei dolci o del legno, così, effettivamente no, sono gli artigianini che fanno il croccante a mano, e quindi si usa, diciamo, in senso etimologico, no, di manifatto, cioè fatto a mano, no? Manufatto. In realtà, però, quando ce lo dice Conte intende un'altra cosa, cioè intende quello che, diciamo, è un termine che si utilizza per definire i processi che costituiscono le fasi della produzione industriale di manufatti materiali, quindi industria di trasformazione, quello dei giocattoli di prima. Ah. Quindi torniamo lì, torniamo al settore secondario, in particolare a queste industrie di trasformazione. Ora, e qui così siamo arrivati alle definizioni. Adesso torniamo a Conte, ai giorni nostri. Nel senso che l'altro giorno Conte, mentre occhieggiava con le sue ciglia finte alla telecamera, frutto già di industria di trasformazione, le ciglia finte, esattamente. Bravissimo. Ha esposto il nostro DPCM, che sta per... Non dirlo, Lorenzo. Ascolta, dai, di cos'è il DPCM? Decreto politico parlamentare. Certo, no. Sì, hai ragione. Guglielmo gli piace sottolineare le ignoranze, esatto. Professoressa, li metta due. Quella è l'infame dell'elementare, lo sbirro della classe. Io non sapevo cosa voleva dire rizoma, e adesso lui di PCM. Rizoma. C'è chi ha fatto scienze politiche e chi ha fatto filosofia. Quando sarà possibile, faremo una puntata sul rizoma di Deleuze. Guglielmo non ci sarà, perché non gli frega niente di imparare le cose degli altri. Sarà lontano. Lui ha fatto scienze politiche, avanti. Ma dove? Allora, il DPCM comunque sta per decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, era più facile, la pensione pre-interrogazione che ha giocato a tuo favore, Pica. Niente affatto, ha vinto Guglielmo. No, allora, ha vinto la verità, all'inizio, ha vinto lo sport. Ha vinto lo sport, esatto. No, lo sport, ma solo da soli. Ma male accompagnati. Esatto. Quindi, allora, nel DPCM all'inizio dell'articolo 2... C'è un articolo, ovviamente me lo sono andata a prendere e adesso ve lo sciorinerò come se fosse la filastrocca della banana, una bimba di Conte. Allora, praticamente all'inizio dell'articolo 2, che si intitola misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive, industriali e commerciali, dice così, cioè proprio inizia così, dice: sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive, industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate all'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Adesso devo aprire un'altra parentesi, perché purtroppo se no non si capisce. Penso che il buon Conte ha spiegato in conferenza stampa che il governo ha puntato, come giustamente voi dicevate all'inizio, a fare ripartire il comparto manifatturiero e quello edile, e contemporaneamente anche il settore del commercio all'ingrosso di funzionale a questi due tipi di attività. Siccome non allora, ovviamente loro possono volere un po' quello che vogliono e vale tutto quello che vogliono loro, però non che vale quello che tutti possono volere, e quindi non è totalmente discrezionale, cioè non è che se io dico sì, la mia è di costruzione perché costruisco comunità e allora ci sta dentro. Cazzo. No, non si può. Sei un genio, Chiara, no, potevamo dirlo. Non si può. Mannaggia. No, no, no, niente da fare. Allora, praticamente ci si deve dare delle regole di base, e questa cosa qua adesso ho imparato come funziona, quindi se volete ve la racconto. E vai! Praticamente le regole di base in Italia vengono fissate attraverso un codice che si chiama ATECO, che sta per attività economica. Questo simpatico gioco di parole. Mi sembra un po' Minkul Pop, di già fascistissima. Esattamente. Oh, tra l'altro, 29 allora, aprile, quando ti scivola una chiave inglese su fascista, secondo me non è reato. Poi, boh. Scusami. Bisogna vedere nella teco che cosa dicono. Okay. A che combinazione alfanumerica. Trasformazione o bene primario? Ma chissà. Non lo so, praticamente, in realtà ovviamente è molto dettagliato. Allora, praticamente ci sono dei numeri, ci sono delle, diciamo, una lettera che serve fino a un certo punto e dei numeri. Questi numeri identificano il macro settore economico e man mano le specifiche articolazioni sotto categorie dei settori stessi. Quindi noi possiamo dire, non lo so, che il 5, anzi di 0,7 sono le attività di un certo tipo, di 0,8 sono delle attività di un certo tipo, i 15 sono attività bancarie, certo. Dico caso, e poi con i numerini successivi io dico ok, bancarie, ma di che genere, no? E sì, allora ci metto degli altri numeri a seguire. Ok. Quindi questa combinazione alfanumerica entra in vigore in realtà a partire dal primo di gennaio del 2007 ed è in realtà una riattualizzazione successiva di un codice che inizia negli anni 90 e che ovviamente ha diciamo una traduzione di una roba europea, quindi di una codificazione dell'Eurostat. Ok. Ora, per tornare a noi, il decreto nell'allegato 3 di cui citavamo prima ha un bel elenco di tutte le divisioni che possono riaprire, quindi praticamente tutti i primi due numeri del codice, okay, che possono riaprire, il che rende ovviamente già abbastanza complicato tutto quanto, perché non si capisce se sono tutti le attività che iniziano con quei due numeri o solo delle attività che fanno parte di quei numeri, ma che poi vi diciamo dopo, un po' a cazzo di cane, perché comunque va bene delle regole, ma un po' come cazzo ci fa. Ma giù, mica vorrei fare le cose fatte bene, voglio dire, un po' di case a cazzo di cane così per creare confusione, metti, il sale della vita. Esatto, esattamente. Ora, ci sono in tutto 87 divisioni, divise okay, su 21 sezioni. Il nostro Giuseppone, occhieggiando sempre alle telecamere, facendo gli occhi dolci, alle bimbe di Conte, di entrambi i generi ovviamente, certo, dice che si vuole fare ripartire il settore manufatturiero, quello edile, e col settore all'ingrosso al seguito. Esatto. Ok. Quindi, quante sono le divisioni dell'attività manufatturiera? Sono 23. Ma che cazzo... Quante sono le divisioni dell'attività di costruzioni? Sono 3. Ah, ok. Ce n'è un'altra dedicata alle attività all'ingrosso. Okay. Quindi abbiamo detto su 87 divisioni, 23 più 3 più 1. Ma cosa diavolo? Quante divisioni ci aspettiamo di trovare nell'allegato 3? 31? Vabbè, matematica non benissimo. 27, 3 più 1. No, 23 più 3 ah, più scusami, 1. 27, vedi, sono scemo, 21. Esatto, ce ne sono 79. Mm. Quindi praticamente tutte tranne 8. Cioè, ci sono tutte. Ok. Ci sono veramente tutte. Cioè tutti i comparti della... cazzo dico... Cioè, cos'è ci che sono deve... le... Vai, scusami. Ci sono, per dirvene alcune, ci sono pesca... estrazione okay, di metalli, industria del tabacco, fabbricazioni varie, alberghi, ma, servizi ma come alberghi? Postali, servizi di informazione, tutte, ma tutte come? Tranne 6. Ma quali sono le 6 escluse allora a questo punto, scusami? Allora, guarda, è una buona domanda, in realtà non ho avuto modo di controllare una per una, ma praticamente cioè, sono veramente pochissime sfigate, bisognerebbe... chiedere perché e che cosa hanno fatto, esatto, al povero Conte queste attività per non essere inserite. Allora, ce n'è una. Ma cioè, scusami Chiara, per capire bene, allora noi ci saremmo aspettate delle parole di Conte che dovessero riaprire le 21 attività del settore manifatturiero, le 3 dell'edilizia e uno, cioè che è l'ingrosso che riguarda queste due cose. Esattamente. Quindi ce ne sono tipo la bellezza no, di... ci sono proprio tutte. Cioè ci sono tutte tranne 6. Calcolate che per intenderci le tempistiche della radio fanno sì che io non vi stia a leggere tutte le 21 certo, sezioni, però per dirvi, l'ultima è, cioè le penultime sono da organizzazione di organismi extraterritoriali a produzione di beni e servizi indifferenziati, amministrazione pubblica e difesa. È tutto manifatturiero comunque, effettivamente. Sì, tutto manifatturiero, metallurgia che è manifatturiero, pesca che è manifatturiero. Ma scusami, pesca non abbiamo imparato poco fa, eravamo alle elementari e ci è stato insegnato che manifatturiero era nel primo settore. Era proprio nel secondo, esattamente. Come diavolo è possibile? Quindi niente, così è un tiraggio in mezzo. Strano, abbastanza. È un glorioso tiraggio in mezzo, così come già quello prima, nel senso che in realtà il terzo allegato dice questa cosa, ma il primo allegato aveva già all'interno tutte le attività che erano già aperte anche prima del 4 di maggio, che dovevano essere praticamente nessuna, cioè praticamente due supermercati e una farmacia, invece avevano al proprio interno dai ferramenta ai computer, a un sacco di altre cose che evidentemente erano ritenute basilari e primarie. Agli alberghi. Esattamente, tra l'altro, esatto, all'interno c'è anche alberghi che non si capisce per quale stracazzo di motivo, visto che tutto sommato hanno detto che per un bel po' non ci si può andare, però evidentemente lui forse voleva fare i compiti anche un po' in avanti, e quindi probabilmente, siccome si voleva portare avanti sul libro, ha detto: già che ci siamo, magari, visto che ad agosto poi le riapriamo, le inizio a scrivere qua, così non me le perdo. Però ci siamo trovati. È probabile, nel senso che a questo punto ci siamo trovati davanti a un piano molto troppo ben definito, cioè tre date ben scandite, il 4, il 18 e poi di nuovo l'1. Quindi sì, maledizione, mi vogliono mandare a lavorare dal 18, raga, perché capito? Sono malata da 4 mesi. Beh, meno male, dai, potresti passartela meglio. Poi per fortuna che non mi fanno un tampone, non posso sapere se ho qualcosa. il malandrino il giorno dopo è andato a Bergamo, e ovviamente era diretta anche quella, era una specie di speciale, sai quando fanno le serie televisive fanno anche lo speciale, Conte a Bergamo. E si è arrabbiato riguardo alle critiche che sono state mosse verso questo fantastico piano, dicendo che il comitato tecnico-scientifico, che fa fatica a volte a dire, tecnico-scientifico, gli esce proprio male, poverino. Non so che difficoltà abbia nel tecnico-scientifico. Si è offeso dicendo: io ho fatto un piano, abbiamo fatto un piano che è solido. Non rompete cazzo. Un mese, quando non c'è stato praticamente la fase 1 è durata un mese e mezzo, la fase 2 due settimane. Ma ci sta, giusto. giusto. Ci sta. Perché così non abbiamo il tempo di vedere nuovi contagi. Sarà fantastico. Esatto, perché comunque così almeno, cioè, se la classe non si porta in avanti, cioè io devo interrogare, sennò devo andare avanti col programma, del resto, diceva lui. Giusto. E quindi sì, insomma. Vi porterete all'esame un'insufficienza su questo argomento, va così. Va bene. Esattamente. Va bene. Ok, Chiara, a questo punto noi ti freggeremo di una cosa bella, cioè tu puoi sceglierci una canzone. Scusatemi, tanto per darvi un'idea, sì. Comunque anche sulla sola attività manifatturiera, avessero voluto aprire solo quella, praticamente in Italia lavorano nella attività manifatturiera 2.700.000 persone. Madonna. Ah. Di cui 770.000 abbondanti in Lombardia, su un totale di lavoratori in Italia. Scusami, poco meno della metà lavora tutta in Lombardia, quindi? Un quarto, perché è 2 milioni? Più di 2 milioni? È 2 milioni e 7. Ah, ok, sì, certo. Quindi 700.000. 24, fra un terzo e un quarto. Ok. Diciamo, in Italia un lavoratore su quattro più o meno lavora nel settore manifatturiero. Comunque, anche avesse aperto solo quello, / più tutte le altre che sono già aperte ad ora, sarebbero state comunque un lavoratore su quattro. Beh, molto bene. E quindi sì, è così. Quindi è così, raga. Ma però tutto per bellissimo. Fortuna che ce l'ha detto con quello charme. Capisci? Fantastico. Ma poi hai visto quando ha sbagliato dalla data 18 giugno a 1 giugno, che l'hanno richiamato dal fuoricampo, gli hanno detto no, oh, non è 18, è 1 giugno. Ah sì, scusate, 1 giugno. È bellissimo, l'avete visto delle coliche? No. Bellissimo. Cioè? Guardatevela, adesso dopo ve lo mando. Ok. Così, il bello della diretta. Io ero piegato quando non gli funzionava Zoom, per terra, ero morto per terra. Tutto molto bello. Il primo intervento dei giornalisti non gli funzionava quasi. Va bene, ascolta Chiara, a questo punto consigliaci una bella traccia, così andiamo a chiudere questa edizione di Radio ZM Zona Rossa, che comunque è durato anche questo tipo 2 ore e mezza, ma va bene, anche ci avevamo detto di fare una versione ridotta, ma siamo bravissimi. Stiamo mangiando le cuffie. Esatto. Vai, dici un traccione. Allora, visto che volevo stemperare un po' il clima di metallo che si era venuto a creare. Ci piace il metallo. Ma tenendo il metallo della fabbrica, un classicone, sentiamoci di statuto. Oh, che bello. Così, con questi collegamenti semantici un po' alla studio aperto. Mm-hmm. Ci piace? In fabbrica, non ci vogliamo andare, soprattutto non ci vogliamo andare quando c'è il contagio, pezzi di merda, dovete darci i soldi e farci stare a casa. E invece dovremmo andare a essere liberi di andare nei parchi, belli distanziati, così stiamo bene. Schifosi maledetti. E va bene, ma ascolta, prima si stava vociferando di questo fantastico corteo di 16 ore in radio il 1° di maggio. Tu sei ovviamente coinvolta. Ovviamente. Verrei disturbata malamente sul tema. Ci stiamo interrogando io e Lorenzo all'alba, tra l'altro, maledetti, mi volete fare svegliare presto. Sì, certo. sì. Ti porteremo a fondo noi. Adesso vedremo. Ma Lorenzo, vuoi provare a dare delle anticipazioni a Chiara su cosa potrebbe essere il tema? O anche no? Cioè, di delle cose contraddittorie, confondila, via. Dai. Hai presente il calcio? No, ecco, scherzo. Non c'entra niente. No, in realtà una cosa che ci interessava moltissimo, ma che non c'entra niente, che potremmo riciclare per la prossima volta, è appunto il pesce combattente. Ah, ecco, bravo. Il pesce combattente. Sarebbe molto figo. E la più banale, che è una cosa che vorrò chiedere anche a Stide, è l'automazione del lavoro. Mica, questo è meglio chiederla a Stide. Però quale potrebbe essere la versione super cazzola da chiedere a te sull'automazione? Come funzionano i dispositivi di Amazon, quelli che si sono visti nel film di Ken Loach? Cazzo, bello. Quei GPS un po' strani che comunicano. Vediamo. Perché loro sono molto particolari, perché al corriere gli conteggiano anche il tempo che ci mette a parcheggiare il camion, fare pipì e riprendere il percorso. Quindi ti accompagnano anche in bagno, è questo che esce fuori da tutto il discorso che può esserci dietro questi dispositivi. Diventano il tuo migliore amico virtuale e lo spione che spiffera tutto al capo. Simpatico. Quindi è sì. Un po' anche guardone, tra l'altro. Brava. Ti guarda. Quindi, mentre pisci. Ma secondo me chiacchiera. Non ho capito, quello è una cosa interessante. Se di comunica. Amici. Comunque ti comunica, sicuramente ti comunica che. Però sì. La cosa bella è che secondo me si sono trovati, non lo so, lo presuppongo, dei metodi per traviarlo. È ovvio, il lavoratore non può obbedire per forza a sto cosa. Gli avrà messo qualcosa dentro, l'avrà hackerato in qualche modo per dire ok, le informazioni che gli dai sono false. Chissà. Interessante. Chissà. Comunque, secondo me effettivamente il tema più ampio, cioè come funziona Amazon, cioè dal mio click in avanti cosa succede, come si fa a organizzare la produzione, la quanti vengono dei sfruttati prodotti, eccetera. Ah, potrebbe essere interessante, visto che ormai praticamente è tutto Amazon il mondo. Va bene, Chiara, le faremo sapere se è questo tema oppure, non so, altre cose, tipo... Vedremo soprattutto quanto possiamo sforare nelle 12 cose successive con questo tema stretto che avete pensato. Esattamente. Nel frattempo noi ci mandiamo l'istatuto, ti ringraziamo per questa spiega di stasera che comunque ci ha aiutato a capire che cazzo è manifatturiero, ma soprattutto ci ha aiutato a capire che quando un presidente del Consiglio dice manifatturiero in realtà intende 79 altre cose. Esatto. Esattamente. Grazie Chiara. Ciao amici. È stato bellissimo. Ciao Ne. Ciao. Va bene Lorenzo, andiamo a ascoltarci gli statuti e poi i saluti finali. sirena, e cento all'ora, e cento pezzi devo fare, non ho neanche il tempo per pisciare. In fabbrica, non ci voglio andare, in fabbrica, non ci vado più, più, più, più. Vorrei che fosse ieri, vorrei un fine settimana, ma oggi è lunedì, si ricomincia la catena. E tiro avanti, per una sporca busta paga, ma chi c'è stato sa che la fabbrica è una galera. In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più, più, più, più. In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più. Sentite che vi canto, la vita è solo una, meglio un posto al sole che un turno alla catena. In fabbrica, non ci voglio andare, in fabbrica, non ci vado più. Se 8 ore vi sembrano poche, provate voi a lavorare e proverete tra lavorare e comandare. In fabbrica, non ci voglio andare. In fabbrica, non ci vado più, più, più, più. Ci avviciniamo un sacco al 1° maggio. È incredibile. Non vedo l'ora. Questa canzone è bellissima. Non vedo l'ora. Ci ha accompagnato e ci ha disteso le membra dopo questa faticosa puntata, che continuerà nella prossima puntata, per come abbiamo scoperto. Allora, c'è un giochino che vi esorto a fare. Controllate i podcast, perché la numerazione dei giorni di Zona Rossa segue la fantomatica Zona Rossa che è stata decretata prima per la Lombardia e poi per tutta l'Italia. Forse, arrivati ad oggi, abbiamo trovato la forma migliore che questo programma poteva vestire, ovvero voi date i numeri, voi infamate la gente. Quindi andremo avanti secondo questo nuovo leitmotiv, nuova parola per Guglielmo. Oh, leitmotiv! Che abbiamo intrapreso oggi, e la settimana prossima riprenderemo il nostro rizoma telefonico e andremo avanti a disturbarvi e a far sì che siate voi a disturbare i vostri compagni e le vostre compagne. Sappiatelo, sarà tutta colpa vostra. Noi saremo soltanto veicoli, cavalieri, esatto, alfieri dell'infamata, esatto, e dello sdegno e del delirio e dell'orrore. Ma questa cosa ci compete. Siamo un po' noi che siamo fatti così. Siamo orrendi, orribili. Io di più, Lorenzo un po' meno. Mi sto sforzando. Si sta sforzando. Sì. Sto sforzando. Va bene, allora potremmo dirci che è finita anche stasera. Purtroppo ci dispiace. Sì. Vorremmo riuscire a non mangiare, ma non è così. Anche per assordarvi ancora di più, ma niente, ci vediamo il 1° maggio alla dimostrazione del 1° maggio alle 10 del mattino. Quando la gente guarda i cartelli che ha davanti è sempre un'esperienza incredibile, esatto, vero? Hai controllato i cartelli davanti? Ah, c'è scritto qualcosa! Qua, qua, qua, qua. È incredibile, c'è scritto qualcosa! E quindi? Grande, vai. Bravo. Così! Grazie. Perfetto. A tutti e tutte. Zona Rossa è per la raccolta differenziata. Buona serata, buon ascolto dei nostri fantastici programmi. Anzi, ora rotazione musicale a Bizzeffe. Ciao a tutti e a tutte. Zona Rossa, ci sentiamo venerdì mattina alle 10.